È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna, chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto, che ci vuoi fare? Siamo nati per amare. Iniziamo così col quartetto Cetra, questa sera, caro David Parenzo, finalmente in collegamento da Roma, da un posto dove si sente bene, senza rumori di sottofondo. Da un posto civile. No, da un posto dove non ci siano quel rumore di sottofondo, degli scioperi, della gente che protesta. Il rumore è la piazza, è la cronaca. Vabbè, della ma piazza, ce la siamo dimenticata e non credo che sarà qualcosa, sarà ricordato come qualcosa di epocale. Ecco, insomma, diciamo la verità. Sarà da oggi fino al prossimo futuro, ogni giorno manifestazioni di piazza, lotte operaie, ricordi Bertinotto, cioè, parlava di grandi lotte operaie, lavoratori, lavoratrici, ti ricordi o no? Grandi masse operaie. Vabbè, comunque, insomma, non ci ricorderemo di questa giornata nei prossimi 20 anni, quella di ieri. Archiviamola, ti faccio sentire un Giuliano Ferrara questa mattina da Alessandro Milan a proposito della questione delle donne di Berlusconi, dei pagamenti a Tarantini, eccetera eccetera, molto divertente. Senti, donne, sciocchezze, il denaro di Berlusconi, interessante. Senti, una postale, le donne sono sciocchezze nelle corti, così un po' principesche, un po' folli, un po' eccetera. C'è un dare e un avere. Il denaro per Berlusconi vale tutto e non vale niente. 800.000 euro di Berlusconi sono 80 euro sue e mie. Berlusconi ha 10 miliardi di euro, ma se vuole dare 800.000 a Tarantini, ma a noi che ce ne importa? Farà discutere. Se vuole dare 800.000 euro a Tarantini, a noi che ce ne importa? Per Berlusconi 800.000 sono come 80 euro. Sciocchezze. No, ma di per sé ha una sua logica, che il direttore Ferrara è acutissimo, cioè ha una sua logica. Se voglio dare 800, effettivamente è vero, se voglio dare quella cifra lì a Tarantini, chi se ne frega? Forse così va bene, ma il problema è che non è così. Vabbè, no, invece sì, che gliel'ha dati è sicuro. Il motivo per cui non gliel'ha dati, poi allora direbbe qual è la ragione. Va bene, lo spiegheremo più avanti, però. Va bene, andiamo a sentire, a proposito sempre di questioni che riguardano le donne, beh, un par di d'antan, anzi no, un par di oggi, a paese di merda, premier di merda, Pardi. È lì. Ha avuto, diciamo così, il colpo di genio di inventare una formula icastica, no? L'Italia paese di M puntini puntini puntini. Io penso che non solo qualche tifoso di calcio, ma perfino qualche poeta ermetico potrebbe sentirsi costretto a immaginare la formula a paese di M puntini puntini premier DM puntini puntini puntini. Ma vogliamo ricordare anche sempre l'ottimo Rotondi, a proposito di donne, che ieri ha fatto l'elogio del Silvio Conquistador. La vita sessuale di Berlusconi è attestata dalla grande quantità, nel senso che io solo ho conosciuto un mare di donne che mi hanno chiesto di presentargli Berlusconi, quindi voglio dire che piaccia, non c'è dubbio. Beh, il dopo no, non lo vengono a dire, però voglio dire, se la quantità è quella che raccontano giornali, cronisti, pettegoli di corte, magistrati, intercettatori, bisogna solo invidiarlo dal punto di vista della vitalità. Cosa uscirà fuori dalle intercettazioni di Bari, Tarantini, eccetera, eccetera? Terry De Nicolò, ieri ospite qui alla Zanzara, proprio in questi minuti, dice: quando spunteranno ci sarà da ridere. Secondo me sì, e ci sarà da ridere per un bel po' di giorni. Secondo me sì, però non so chi siano. Così la smetteranno anche di parlare male di donne come me che sono state coinvolte. Quando spunteranno quei nomi. Fra poco ti presento un ospite, però, caro Parenzo, c'è anche da riprendere Brunetta. Il quale dice era un po' che non si sentiva. Beh, no, te lo faccio sentire dopo, però te lo faccio sentire dopo. Prima Renzi, ma che strilla. L'attacco no, ma io vado in depressione se non lo se sento. Non va la, contro gli studenti che arrivano in ritardo a un convegno dove era presente, bellissimo. Studenti che sono arrivati in ritardo. ritardo, c'era lui che doveva fare una specie di lexio, cretini, non so. Cretini. No, no, no, sentiamo, non so se si esprime così, non l'ho sentito. Perché questi ritardi? Senza motivazione. Non sapete cosa vi siete persi. Mai ripeterò, mai ripeterò. Vi rimarrà nella coscienza per tutta la vita. Nella cattiva coscienza. E poi altro, naturalmente, c'è Renzi, che adoro, lo voglio abbracciare fortissimo. Bersani, tiri fuori le idee, non gli striscioni. E non gli striscioni politici non devono mai andare in piazza, a proposito dello sciopero di ieri. Renzi, Renzi, la voglio sentire, Renzi. Spero che il segretario del PD tiri fuori le idee e non soltanto gli striscioni alle manifestazioni. La gente dal PD non si aspetti di sapere a quante manifestazioni partecipiamo, si aspetta di sapere se noi siamo quelli che si lamentano soltanto di Berlusconi o se abbiamo idee diverse, idee precise, idee concrete, non l'ennesima discussione tra chi c'era e chi non c'era. Infine, perché adesso mi viene in mente una cosa, l'onorevole Torazzi della Lega Nord, non lo conoscevo, ogni tanto c'è qualche deputato della Lega che non conosco, sono talmente tanti in Parlamento, che ogni tanto spunta uno nuovo, uno nuovo nel senso di fronte all'opinione pubblica nella grande giostra delle dichiarazioni quotidiane. Il signor Torazzi: con i magistrati padani ci sarebbero meno mafiosi. Tutto questo a Radio Padani. Una teoria interessante, no, caro Parenzo? Con i magistrati padani ci sarebbero meno mafiosi. E quelli originari della Sicilia che sono di altri posti che sono. Ma è invece... una battuta o devo ricevere una battuta o una battuta? No, ma devo è un'idea. Senti. Io sono convinto che se avessimo i magistrati padani, non solo il ministro interni padano, con dei CSM padani che giudicassero i magistrati in base ai risultati che portano a casa, scommetto che in Padania salterebbero molto di più i mafiosi. Probabilmente in Padania la mafia non ci sarebbe. Se noi non avessimo avuto il procuratore antimafia Macri, ma avessimo avuto il procuratore antimafia Fumagalli, Brambilla, Carioni, probabilmente noi oggi non avremmo la mafia al nord. Onorevole, purtroppo la sfiga ha voluto che la magistratura c'era in mano loro. La magistratura in mano al sud. Torazzi. Vabbè, che vogliamo dire su Torazzi? Noi diciamo qualcosa dopo, adesso no. Finalmente Radio Padania 80024. Ma non è Radio Padania, è Radio 24. Un attimo, senatore, un attimo solo, devo presentare un ospite. Non si intrometta sempre dalla corte, dalla reggia di chiudiamo Padania, questa comunicazione. Dire. Chiudi la comunicazione, chiudi, via. Carlo Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Come sta? Bene, posso raccontare un anetto? Un aneddoto. Come no? Un anetto li chiamava una volta ad alto gradimento. Ce lo racconti, no? Sulla relatività dei soldi per Berlusconi. Lui aveva dato 5 milioni di euro a Don Gelmini dopo lo tsunami per fare... Sì. E se nati dai Salesiani in via Copernico, alla fine il direttore, dove lui era stato a scuola, dopo aver cantato commozione, dice: ma scusa, a Don Gelmini niente, sai, i tuoi maestri, insegnanti, sei stato qui 8 anni della tua vita, allora tira fuori, gli fa una segna da 500.000 euro. Glielo consegna. Sì. A quel punto io sono stato a Salevo, Salesiano anch'io, ho estratto 5 euro dal portafoglio, li ho dati al direttore, gli ho detto che in termini evangelici tenga conto che i miei 5 euro valevano molto di più dei suoi 500.000. Ma questo, scusi, di fronte al direttore di cosa? Dell'istituto Salesiano in via Copernico, dove Berlusconi aveva studiato 8 anni, che aveva appena incassato una segna da 500.000 euro. Da Berlusconi. Perché si era lamentato il direttore dei soldi invece dati a Don Gelmini. 5 milioni di euro a un'altra associazione benefica, dice noi salesiani. Però Giovanardi, una cosa... Per confermare quello che diceva Ferrari. Sì, insomma, però Giovanardi, diciamo la verità. Diciamo che avevano un'altra funzione. Ecco, i soldi dati a Don Gelmini, i soldi dati all'istituto... Ma ci mancherebbe altro. Ma cioè, lei non è un po' schifato dal fatto. Giovanardi è uguale. Non è un po', non è, non si sente un po'. Cioè, non si sente un po' in imbarazzo nel sapere che Berlusconi. Ma io ho detto e ripetuto che condivido pienamente su tutte queste vicende quello che ha detto, per esempio, il cardinale Bertone, o ha detto il presidente della CEI, che ha criticato, è stato molto duro nei confronti del comportamento di Berlusconi. Soltanto che un conto è una questione morale, che si può sollevare davanti a determinati comportamenti, che poi nel voto sarà tale per cui ognuno stabilirà se continuare a avere fiducia o no di chi ha determinati comportamenti. Cioè Berlusconi dovrebbe parlare al telefono con la Vitole Tarantini, oppure secondo lei è imbarazzante? In Italia, questa questione, che è una questione morale, viene trasformata in questione penale, criminale. No, lasciamo perdere la questione penale, criminale. No, invece proprio così, perché se è una questione morale ci sto. quando ti metti in politica, cioè lei ci crede alla generosità di Berlusconi nei confronti di Tarantini? Tarantini era bisognoso? Io credo nella generosità di Berlusconi a 360 gradi. Credo anche che ci siano questioni che riguardano un giudizio morale che può essere anche pesante nei confronti di certi comportamenti, ma quando queste cose, come per esempio a Milano col caso Ruby, finiscono in processi surreali e si passa su un piano di criminalizzazione, allora mi dispiace, ma dovendo scegliere fra questo tipo di atteggiamento e Berlusconi, mi schiero con però Giovanardi, mi scusi, d'accordo, però questo è un discorso che si può fare, quello sui processi, come vengono imbastiti eccetera eccetera, ma lei davvero pensa che Berlusconi dava quei soldi a Tarantini perché Tarantini ne aveva bisogno oppure per coprire altre cose? Mi dica la verità, Giovanardi. No, ma non c'era niente da ma come non c'era niente da coprire? Da coprire, cioè Tarantini lo sa che chi portava da Berlusconi? Lo sa chi portava? Lo sappiamo tutti, perché quando, se non sbaglio, quei soldi sono stati dati, il Corriere della Sera aveva già pubblicato le foto. Sì, ma questo è un altro discorso, è un altro discorso. Aveva già detto chi le portava, e naturalmente adesso usciranno anche, immagino, telefonate in cui Tarantini e Berlusconi diranno delle cose, faranno dei commenti, come ho letto l'altro giorno che una tale era l'amante di La Vittola, cosa che anche il marito penso abbia saputo dai giornali, con tutta una serie di vicende. Mi scusi, con i reati, il penale. No, d'accordo. È un quadro, mi scusi, sottosegretario, è un quadro. Cioè, non è un po' imbarazzato, questo vuole dire, non è un po' imbarazzato lei, Carlo Giovanardi, da quella... Io sono assolutamente d'accordo con voi sull'imbarazzo. No, lei non deve essere d'accordo con noi, ci dica se è imbarazzato lei. Ma certo, ma l'ho detto e lo confermo. Cioè, lei è imbarazzato per la vicenda Tarantini, perché cosa? Perché Berlusconi parla al telefono con Tarantini alla Vittola? Ma da tutto il quadro che ne è uscito, dal quadro che è uscito da Arcole, dal quadro che è uscito, però non condivido determinati comportamenti, condivido ancora meno il costume di un paese che i comportamenti di Kennedy o di Pompidou o del presidente Gronchi o di altri personaggi. Ma sono cambiati i tempi, sono cambiati i tempi. Però se li avessimo letti, credo, sui giornali, sulle intercettazioni, quello che Kennedy... Sì. Che diceva al telefono con chi, con Marilyn Monroe, da altri, insomma, o quello che Pompidou faceva, eccetera, eccetera, eccetera, probabilmente la sinistra, che o Clinton, o i dialoghi di Clinton prima e dopo che svolgeva certe attività dentro lo studio ovale della Casa Bianca, però quello che non capisco è perché ancora Kennedy o Pompidou o Clinton sono degli idoli, delle icone della sinistra, o addirittura mi sembra che Strauss-Kahn, quando è tornato, beh, c'è un problema anche di quantità, non c'è un problema di quantità, caro Giovanni, perché Kennedy come quantità era più in là, di Berlusconi, di Berlusconi, certo, cioè addirittura lei dice che Kennedy più no, questo no. mi dispiace per Berlusconi, che magari si sentirà offeso da questa affermazione, ma ho l'impressione che l'abbia superato di gran lunga. Allora traffico, torniamo subito. Il pericolo numero uno, la donna. Eccoci, allora, Carlo Giovanardi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, 800-24-0024, in collegamento dal Senato, in collegamento invece da Roma, dal solito posto, alla 7, c'è David Parenzo. Caro Parenzo, immagino che tu hai chiamato il nostro amico, sottosegretario Giovanardi, per la vicenda della RAI. Immagino. Io lo chiedo subito, la vicenda, arriviamo, caro Parenzo, però io vorrei capire. È una cosa, ho già fatto sposto denunzia, già fatto una denunzia per questo atto gravissimo che ha fatto la RAI di censura. C'è un'omofobia di fondo pazzesca proprio. Adesso sentiremo subito Giovanardi su questo. Andrebbe proiettato nelle scuole quel film. Beh, adesso nelle scuole, non lo so. Nelle scuole elementari. Nelle scuole elementari, dici tu, Cioè, che stai parlando di quella puntata. La puntata della serie tedesca Un ciclone in convento, che conteneva un matrimonio gay celebrato in una cappella di un convento. Si tratta sempre di una fiction, che è stato, non è stato mandato in onda da Rai 1, addirittura dice il direttore di Rai 1, una persona che apprezzo, che si chiama Mazza, per evitare polemiche. In realtà le polemiche le ha create. Giovanardi, però io voglio sapere da lei, prima di affrontare questa cosa, ma cos'è che la cosa che la imbarazza di più del comportamento di Berlusconi? Me lo dica chiaramente, lei che è una persona sincera, cosa la imbarazza di più? Le telefonate, le cose di sesso che escono fuori, la frequentazione di certe persone, cosa la imbarazza? Ma sostanzialmente il fatto che... Non ci pensi troppo. Che emerge sia per quanto riguarda diciamo le feste d'arco, sia per quanto riguarda la vicenda Tarantini, cosa le imbarazza di più? La vicenda Tarantini è una frequentazione che ha comportato il fatto di mettere in circolazione persone, donne, sì, che inevitabilmente mettono a rischio chi li frequenta di essere coinvolto in pettegolezzi, in diatribe, in personaggi che possono in qualche modo rivelarsi poi, come si sono rivelati, delle mine vaganti, e quindi la poca prudenza. Ma lei parlerebbe, poca prudenza, parlerebbe mai al telefono con la Vitola e con Tarantini? Tarantini, la Vitola, adesso diciamo, non è che vogliamo dare della patente di criminale a nessuno, per carità, però insomma sono persone con cui un Presidente del Consiglio dovrebbe parlare? C'è il problema che senza peccato scaghi la prima pietra, perché se questo sistema fosse applicato a 360 gradi, sarebbe veramente divertente sapere chi parla con chi e che cosa dice. Il problema nostro è che un paese dove il Presidente del Consiglio viene intercettato continuamente, e magari penate a Milano per 10 anni, dove muove, così dicono le accuse, decine di somme straordinarie di tangenti, di corruzione, di robe, nessuno... Però adesso non la butti subito sul nessuno PD. Nessuno si interessa di quello che dice, nessuno si pone il problema, magari vengono fatte denunce circostanziate, non dall'ultimo che passa, il sindaco di Milano, che spiega perché c'è una speculazione in corso, incomprensibile, la consegna in procura. E nessuno si preoccupa, io non ho mai sentito la voce di questo. Però adesso lei la butta sempre su Penati. Senta, però. Non dico che sarebbe interessante. Ieri Albertini ha detto. Per esempio, Nicky Vendola, che è un grande personaggio della politica, sarebbe interessante sapere e sentire intercettate le sue conversazioni private. Perché? Perché sarebbe interessante? Sarebbe interessante perché potrebbero emergere spunti interessanti. Tipo? Anche dal punto di vista dei suoi orientamenti, del suo, con chi parla. Cioè lei dice sarebbe interessante sentire le conversazioni private di Vendola. Per esempio ho sentito un'intervista dove veniva in qualche modo santificato Marrazzo rispetto ai suoi orientamenti, sarebbe stato interessante anche vedere queste, però mi sembra che ci sia una mono direzione sistematica nei confronti di Berlusconi agli italiani, mentre altri grandi personaggi questo non avviene. Oh, per quanto invece riguarda la RAI. C'è un obbligo di legge, cioè qualcuno mi deve imporre per legge determinati spettacoli, c'è un obbligo. Ho letto Mazza che dice c'è una nuova serie, quindi la vecchia serie era finita. No, ha fatto bene la RAI, lei ha detto. Ha detto Mazza. Lei, voglio sapere quello che dice lei, Giovanni, ha fatto bene la RAI? Io ho sentito quello che ha detto Mazza. No, allora, ho capito, ma lasci perdere quello che ha detto Mazza, ha fatto bene la RAI o no? Salvo la Concia. È sicuro che questa cosa qui, visto che il mondo e l'Italia non gravita attorno alla Concia e ai problemi dei due uomini e di due donne che si vogliono sposare. Ma credo, è un telefilm che la Rai ha comprato. È un telefilm che la Rai ha comprato. Perché i miei spettacoli o quello che io propongo sulla droga la Rai non li dà. Io adesso faccio un CD di protesta, mi incateno, perché le nostre iniziative contro la droga non vanno sulla Rai. Io pretendo di averle. Ma io non ho capito una cosa, ma le sue sono iniziative istituzionali, Giovanardi, le sue sono iniziative istituzionali che avranno spazio e lo spazio che... No, saranno, perché sono andato a Festa di Venezia a presentare un corto, ero in Festa di Venezia, è stato proiettato e io... Come se dicessi, pretendo che la RAI me lo, e se non me lo mandi. No, ma è diversa questa cosa qua. È diversa questa cosa qua. La RAI ha comprato un telefilm e non ha deciso, e ha deciso di non mandare in onda una puntata perché c'era un matrimonio tra due omosessuali. Questa è la realtà. Ha fatto bene la RAI, sì o no? La RAI ha deciso di evitare polemiche, infatti le eviterà. Ma come le eviterà? Le ha create? Probabilmente mettendole in onda le avrebbe create. Perché? Perché uno che gli creava polemiche, per esempio, io, perché questa monomania per cui. E in un paese dove milioni di persone tirano la carretta, hanno problemi. Ma e allora sembra che l'unico problema, l'unica cosa da mettere in evidenza sia questa dimostrazione che due uomini e due donne si possono, si debbano sposare, è una cosa che non se ne può più. No, scusi, Giovanardi, scusi un attimo, era una puntata di un telefilm, di una serie, come non se ne può più? La Rai ha preso una sua decisione, Mazza fra l'altro ha detto una cosa diversa, dice non potevamo mandare tutta la serie... Così ha detto Mazza, lei può contestare Mazza, può dire che a Mazza dice una cosa falsa. No, io non dico che dica una cosa falsa, è stata una decisione politica di non mandare in onda. Ecco, ha detto Mazza, ha detto prima il comunicato, quindi non ricordo. Sì, ma ce l'ho davanti. Dovendo scegliere che cosa non mandare in onda di una serie, perché no, c'era la nuova serie. Insomma, non hanno mandato in onda questa puntata sulle nozze gay. Come non hanno mandato il mio spot breve sulla droga. No, non è la stessa cosa, Giovanardi, non è la stessa cosa. È che c'è... Scusi, però le faccio questa domanda. Mandare in onda su Rai 1 una puntata che ha della serie tedesca Un ciclone in convento che conteneva un matrimonio gay, secondo lei è una cosa che non si deve fare? Allora, io vedo Vasco Rossi sul TG1 e sulle trasmissioni Rai 47 volte in questo mese mentre manda messaggi a favore della droga e non vedo mai la Rai che manda invece messaggi contro la droga o lo fa raramente. Ma qui non è un messaggio, non era un messaggio, è un telefilm, è una serie. Perché i telefilm non sono messaggi, il cinema e i film non sono messaggi. Dunque la Rai ha fatto bene, la Rai ha fatto bene. Io ho letto quello che ha detto Massa. No, ma io voglio capire quello che dice lei. Ha una sua autonomia, ha fatto una scelta, come quando fanno le scelte su di me e sulla nostra attività. Non ci danno spazio, mi dispiace, ma la scelta loro. No, ho capito, ma lei, secondo lei, ha fatto bene la Rai o no? Ha fatto bene la Rai o no? Le giustificazioni di Massa mi convincono. Dunque la Rai ha fatto bene? Mi convincono, ha detto delle cose, secondo me, assolutamente serie. E ha evitato molte polemiche, perché se è vero quello che c'è scritto, che questi due andavano a sposarsi sull'altare di una chiesa, sì, di un convento, è chiaro che la cosa, in Italia, sì, non è una cosa accettata. Ma è una fiction, un'invenzione, è un'invenzione. No, cioè, che cosa avrebbe provocato, secondo lei, ai telespettatori di Rai 1? Cosa avrebbe provoca questa cosa della Concia? Nulla. E allora perché non mandarla in onda? Allora appunto, di cosa stiamo parlando? Ma scusi, con i problemi che abbiamo mi devo preoccupare del fatto che la Concia si arrabbia perché non mi fanno vedere due uomini che si sposano in un convento? Ma non me ne può fregare meno. Ma non è la questione della Concia. Non me ne può fregare meno agli italiani. Ma non me ne può fregare meno. Ma scusi, io non posso passare la vita a interessarmi delle questioni di questa questione. E non credo che neanche gli italiani si possano passare la vita a interessarsi della questione di quella minoranza. Minoranza del mondo omosessuale, come ho detto, sì, incontrandoli a Forza dei Mami, c'erano 500, sicuramente la maggioranza silenziosa, sì, che c'è, delle persone che hanno orientamenti di quel tipo, non si fanno rappresentare né dalla Concia, né da quelle che vanno a Gay Pride con le piume, con le penne e col culo di fuori, e neanche quelle che fanno queste battaglie. Allora, dobbiamo tornare dopo il giornale radio, se lei ha tempo parliamo della questione della droga e di Vasco Rossi, naturalmente. 800 24 00 24, giornale radio. Di nuovo in diretta, 19:17, la Zanzara, David Parenzo in collegamento da Roma, c'è sempre con noi, sempre da Roma, dal Senato, il senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Giovanardi, ma lei non deve essere in aula, scusa Parenzo, non c'è... Eccomi qua, ci devo essere fra un quarto d'ora, quando si vota ci sarò, perché non vorrei causa o per il merito della Zanzara far cadere il governo. Ah, ecco, insomma, Parenzo, non ci vorremmo attribuire il merito di far cadere il governo o addirittura o la disgrazia, a seconda naturalmente delle preferenze. Dove sei, Parenzo? Non ti sento più, scusami. No, no, Parenzo non c'è, caro Giuseppe. Oddio, Parenzo mio... è stato sostituito momentaneamente dalla tua artista salda di riferimento, diciamo. Vediamo che nome fai. Uno dei soliti scherzi di Parenzo, che invece di... Chi è? Guarda, chi è molto bravo a fare con le voci, ma non a fare questa. Ah, Geppi, come stai? Come stai? Bene, saluta Giovanardi, dille che non stiamo fumando niente di irregolare. È qui, parlaci. Quante gli avranno detto a Parenzo che sarà con la mula? Ah. No, non c'è pure in questa occasione. La mula. Ma non è lì. Scusi, dica qualcosa a Giovanardi di Salviglia con Vasco Rossi. Signora Cucciari, dica qualcosa a Giovanardi, che basta di rispondere a Vasco Rossi sulla questione della droga, no? Non si può, no? Un confronto tra un artista e un... Ma ne dice talmente tante Vasco Rossi che ce n'è per tutti, anche per Giovanardi, purtroppo, di recente, evidentemente. Giovanardi. No, cagliamo Giovanardi. Guardi, Vasco Rossi. Il problema è che io, non essendo un artista, no, sono terra a terra, so che in Italia morivano 8.000-9.000 persone all'anno negli incidenti stradali. Sì. Oggi siamo a 4.000, li abbiamo dimezzati. Non è che li abbiamo dimezzati perché... Ok, ma che ha detto Vasco Rossi di strano? Ha detto che non è che si muore, ma non si muore per strada perché la gente è sotto l'effetto della marijuana. Gran parte delle persone che vengono uccise, purtroppo, negli incidenti, è per colpa della marijuana. Vengono uccise da persone che sono o ubriache o drogate. Sì, ma drogate no, perché si sono fatte una canna, drogate no, magari di altre cose. Perché si sono fatte una canna. Ma non può dire così. Che se la gente fa i test dei riflessi dopo che uno si è fatto una canna, sono disastrosi. Dunque la canna porta a fare incidenti stradali. Provoca che chi guida sotto l'effetto della cannabis non è in grado di guidare. e sono quelle che vanno contro mano. Signora Cucciari, lei ha mai guidato sotto effetto di una canna? No, ma quindi un attimo solo, Giovanardi, un attimo solo. Signora Cucciari. Ma quindi per esclusione Giovanardi sostiene che quindi le canne nel salotto sono lecite, mi sembra di capire. Cioè le canne nel salotto vanno bene e quelle in macchina no, queste. Le canne nel salotto, come noto, non sono reato. Se invece nel codice penale attuale, norma passata da anni fa, uno uccide la persona in macchina sotto l'effetto della droga o dell'alcol, ha fino a 15 anni di carcere. Vabbè. Ma è poco, perché adesso la spinta, diciamo popolare, anche legislativa, è introdurre un apposito reato che è l'incidente stradale. Vabbè, questo lo sappiamo. Vabbè, ma allora, poiché abbiamo salvato 4.000 vite umane, oggi sappiamo che chi guida fatto di canna. Ho capito, ma sto Vasco Rossi ha detto che la Maria, sto Vasco Rossi. Invece, no, ma poiché Vasco Rossi continua a dire anche oggi che la Maria non uccide e infatti non ha mai ammazzato. Non è la stessa cosa. E dire che guidare lucidi o guidare fatti di cannabis è la stessa cosa. No, ha detto che si possono fare incidenti stradali per tantissimi motivi. Ma c'è una bella differenza tra guidare ubriachi e fatti di droga e guidare lucidi. Vabbè, che dovremmo fare con Vasco Rossi? Scusi un attimo, prima di sentire di nuovo la signora Cucciari, se è ancora in collegamento con noi. Che dovremmo fare, Giovanardi, con Vasco Rossi? Niente. La guerra di Davide contro Golia. Cioè, dobbiamo chiudere il suo sito. All'informazione, riempi i giornali. È in grado di essere vincolato. Cioè Vasco Rossi è più importante dei politici, conta più dei politici, viene ascoltato più dei politici, questo no, è più presente dei politici, non me lo dica. A Venezia in sé c'era Neck, c'era Fiorello, Giuseppe Fiorello e tanti altri del mondo dello spettacolo che fanno da testimonio contro la droga, è perché ci rendiamo conto che per fortuna non c'è mica solo Vasco Rossi. Ho capito, lei dice che Vasco Rossi, personaggi che hanno capito, che lui sarà rimasto al mondo, ma tutti i suoi amici se ne sono andati a causa della droga. Però, insieme a quei suoi amici se ne sono andati migliaia e migliaia e migliaia di ragazzi. Ma ha detto solo che Vasco Rossi ha condannato l'uso dell'eroina, cioè ha detto che Di Maria non si muore, non ha detto una cosa così. Peccato che quando uno va nelle comunità e conosce come stanno le cose, il 90% dei ragazzi che sono nelle comunità fatti di cocaina hanno iniziato un ragazzo di 14 anni incomincia oggi con la cannabis, con i principi attivi che ha, come i tossicologi italiani hanno spiegato ieri, arriva a 18 anni con le funzioni cerebrali compromesse. C'è ancora la signora Cucciari o se n'è andata? La signora Cucciari è appena salita su un taxi perché deve tornare all'aeroporto. Vabbè, intanto sentiamo i titoli del TG3 e poi torniamo. Titoli del TG3 e poi torniamo. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer. La maggioranza accelera sulla manovra, fra poco il voto di fiducia sulle ultime modifiche, l'opposizione segno di debolezza. Sale a 54 miliardi la manovra per raggiungere il pareggio nel 2013, come è cambiato l'intervento sui conti nelle quattro versioni. L'Unione apprezza la finanziaria, più fiducia nell'Italia, accolte le richieste, ma la crescita sarà debole, prevede il fondo monetario, bene le borse. Anche Pisano parla di governo di responsabili e dal PDL arriva un coro di no, supertassa, il Quirinale contro Castelli, D'Alema ospite al TG3. Martedì a Palazzo Chigi Berlusconi sarà sentito senza avvocati dai PM napoletani che indagano sulla presunta estorsione e sui danni da parte di Tarantini. 5.000 docenti devono scegliere se diventare impiegati o dipendenti di altri ministeri, loro non ci stanno, non saremo fannulloni. Risate e fischi a Venezia per il film di Cristina Comencini sulla difficoltà di essere madre, indignata la regista che dice «ho raccontato un tabù». Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi, senza complicazioni. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24, David Parenzo in collegamento da Roma, anche il senatore Giovanardi che fra poco ci lascia, altrimenti il governo cade. Questa è musica. Grande Vasco. Che volevi dire a proposito, le piace la musica di Vasco Rossi, Giovanardi? Bellissima. Come spiegavo ieri a Neck, dei miei gusti musicali, ho criticato a suo tempo Vasco Rossi, Claudio Villa, perché mi sembrava un innovatore, mi sembrava troppo, una musica troppo, no sto scherzando, no io non sono... Un appassionato di Vasco Rossi, mi sembra di capire. No, ma no, in generale non è che seguo la musica. Che volevi dire sulla Rai? Peccato, io non lo discuto come cantante. No, vabbè, questo ci mancherebbe. Sulla Rai, voglio dire, abbiamo discusso con il sottosegretario Giovanardi di questa scena tagliata che non vogliono mandare il telefilm. No, la scena, la puntata direttamente. Non voglio mandare addirittura la puntata perché c'è questa scena di questo matrimonio gay. Non capisco però perché nel nostro paese tutte le domeniche ci deve essere su Rai 1 la messa, che va benissimo, mi fa molto piacere sia la messa su Rai 1 tutte le domeniche, e ad esempio su Rai 2 non ci può essere in contemporanea un concerto di Vasco Rossi. Cioè il servizio pubblico è pubblico perché parla a tutto il paese, siccome siamo in uno stato liberale. Cioè tu vuoi eliminare la messa su Rai? Non è che voglio eliminare, dico se c'è quello, perché intanto perché tutte le domeniche ci deve essere la messa su Rai 1? Ma però va benissimo, perché i concerti e i cantanti nella TV pubblica ci sono sempre, poi se una volta c'è Vasco Rossi, una volta Zucchero, una volta Ligabue, una volta... Ma perché tutte le domeniche la messa su Italia, su Rai 1? Perché? Ma perché l'Italia ha 2000 anni di storia, forse qualcuno sottovaluta il fatto che no, è un paese che ha 2000 anni di storia alle spalle. E che c'entra? C'entra perché il popolo italiano è un popolo che ha determinate inclinazioni, ma determinate modi di pensare, e in Italia il fatto ma secondo che lei fa più ascolto. Una cosa che interessa milioni di persone va in televisione, non sono scandalizzato nessuno, perché essendoci 40 canali televisivi, giustamente, se la domenica dove milioni e milioni e milioni di persone vanno a messa e milioni purtroppo non ci possono andare perché sono malati, o sono handicappati, hanno dei problemi e la possono seguire da casa, il servizio pubblico dà anche quel servizio in un paese che ha ancora milioni di persone che sono cattoliche. Senta, Giovanardi, come lei, dico proprio dove è lo scandalo. Vabbè, fermiamo non è questione di scandalo, lo scandalo è che non va in onda il telefilm solo perché c'è una scena di un matrimonio, questo è lo scandalo. Questo sì, è un po' eccessivo, questo qua è un po' eccessivo. Francamente non me l'aspettavo da parte del direttore Mazza, del direttore di Rai. Non me l'aspettavo perché è una cosa inutile che provoca polemiche, perché togliere quella puntata in cui c'è quel matrimonio omosessuale? Chi se ne frega, va in onda una puntata dove c'è all'interno di questa puntata un matrimonio omosessuale sul sagrato di una chiesa. Dov'è lo scandalo? Dov'è il problema? Vabbè, comunque, insomma, Giovanardi ha detto la sua su questo. Facciamo i film che non devono andare in onda. Una giornata particolare del grande Ettore Scola con Marcello Mastroianni. Censuriamo Marcello Mastroianni, allora. Censuriamo Marcello Mastroianni. Scusi. È andato in onda 450 volte e nessuno ha sollevato polemiche. Ma perché non mandare in onda questo telefilm? Allora? Vabbè, comunque, cioè, Giovanardi ha detto la sua su questo telefilm. Bisognerebbe Vasco Rossi, che bisognerebbe fare? Fermarlo? Chiudere ma il sito? Poveretto, ma scusi. Come poveretto? Ha premesso di essere malato. Di essere malato. Vabbè, sta male. Malato. Ma che c'è? Sta male, ha una serie di problemi, i problemi sono stati anche aggravati, ha avuto una serie di comportamenti precedenti, che di me, chi segue queste cose può diagnosticare. Cioè, secondo lei è malato ancora per effetto di tutto quello che ha preso nel passato? Ha dei problemi, lui dice che per andare avanti si sta curando, deve ricorrere a un mix di medicine. Ma non c'entra la droga con questo? No, ho detto che per mantenere un equilibrio, l'ha detto lui, deve fare ricorso a tutta una serie di supporti, e allora? Non so esattamente che cosa vuole. E allora? E allora che quando una persona dichiara di essere malata, che cosa ma è un devo artista. Dire? Cioè lei dice quello che dice non ha più importanza, cioè vaneggia. Infatti quando un artista canta io non lo discuto. Per il resto vaneggia, no, dice lei, vaneggia, in quanto malato dice, vaneggia. No, ha detto delle cose che lo stanno in cielo in terra. Cioè vaneggia un po', è malato totale, vaneggia, è malato. Sulla riprevenzione della droga, su proibizione, su quello che fanno gli americani. Abbiamo appena firmato Washington l'accordo con Obama, è venuto... Ma chi gliene frega quello dell'accordo con Obama? Ma chi gliene frega Vasco Rossi dell'accordo con Obama? Vasco Rossi dice che in America sì, che negli Stati Uniti hanno una politica aperta sulla droga. Poi forse bisogna informarlo che se uno a Washington lo trovano con uno spinale in tasca... Ma me lo sappiamo galera, questo caso, però Giovanardi, scusi. Allora che cosa dice? Ma che cosa dice? Allora, ma vaneggia, che fa? Vaneggia, che fa? Ma è un artista. No, vaneggia, mette allora quando canta è bravissimo. Quando dà delle informazioni false, vaneggia. E quando dice cose che non corrispondono alla verità o quando dà messaggi come quelli di oggi che secondo me sono deliranti. Ma cosa ha detto? Ha detto che per strada si muore per altri motivi, per tanti motivi. È la stessa cosa, perché c'è sostanzialmente il pericolo di avere incidenti uguali. Dunque, cosa bisognerebbe fare? Siccome fa dei messaggi, bisognerebbe fermarlo, bisognerebbe chiudere il sito, che bisognerebbe fare? Noi abbiamo detto, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il capo del dipartimento, disponibilissimi a mettere in disposizione insieme ai tossicologi, insieme agli esperti, tutta la documentazione, a parlare con lui e spiegargli come purtroppo oggi funziona la droga. Siccome fa questi messaggi, bisognerebbe denunciare. Secondo lei dà dei cattivi messaggi, lo denuncierebbe la magistratura, lei? Ma che c'entra? E che ne so, è una domanda. Per me che la posso enunciare la magistratura. Io sono avvilito. Il sito bisogna chiuderlo? Quello che milioni di educatori, di famiglie, di maestri, di operatori del sociale fanno e si impegnano per evitare. Ma non è un educatore, i ragazzi cadono nel dramma della droga. Certamente messaggi che vanno esattamente in senso contrario. Vabbè. Ma non è un educatore, Marco Rossi. Le attività e le azioni positive che salvano migliaia di vite umane. Va bene, devo chiudere. Vado a votare perché sennò il governo cade. Magari qualcuno è contento. Dunque, secondo il suggerimento di qualcuno, dovrei trattenerla qui così il governo cade. Ci sentiamo tra poco, dopo la borsa. Alla fine torno sempre ai Ridillo, una delle tante sigle di questo programma. Parenzo, dove sei che sento dei cani intorno? Il primo amore non si scorda mai. Non si scorda mai. Senti, trovo che intorno a questo famoso Giro di Padania ci siano delle polemiche eccessive. Perché, per carità, va bene, è una buffonata, l'abbiamo detto più volte, il timbro di un partito politico su una gara ciclistica, però alla fine partecipano delle squadre, è una gara ufficiale. Io credo che l'appello al boicottaggio da parte di alcuni partiti, più tardi sentiremo Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista, abbia poi provocato questi incidenti di oggi. Addirittura Basso, Ivan Basso, schiaffeggiato alla fine della tappa un po' bloccata, eccetera eccetera. Io voglio sempre ricordare però Renzo Bossi che parla, sempre a proposito del Giro di Padania, dei famosi confini della Padania, anche perché qui c'è discussione, come sai, perché alcuni leghisti, tra cui Borghezio, dicono delle cose, altri leghisti tipo Renzo Bossi danno dei confini un po' generici, cioè le Alpi a nord. Sentiamolo Renzo Bossi. Ho chiesto a un po' di corridori di definire la Padania, non tutti sapevano bene quali erano i confini esattamente. Ci aiuti lei? Beh, la Padania è chiaro a tutti cos'è, e comunque si identifica col nord, che sono le Alpi, e poi comprende tutta quella Val Padana, che è anche sulla cartina geografica, che è bagnata dal fiume Po, no? Che poi è quello che dà la vita a tutto questo grande territorio. Ma dunque, dove finisce? Sul Po? Un tempo fa Borghezio ci aveva detto no, fino alla linea gotica, e poi un po' più a sud. Vabbè, ma poi la Padania esiste o non esiste? Chissà. Bene, sai che ho qui accanto, caro Parenzo? Non posso, sono qui a Roma. Lo so, hai ragione. Le domande retoriche. Dovresti indovinare però, Parenzo. Dovresti indovinare. Dalla voce è il grande Diego Tantuono. Eccolo, ciao Diego. Sei un medium, io sono un extra large e tu sei un medium. Vedi che, cioè, buonasera Diego Patantuono, eccoci buonasera qui. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, stupito dalla capacità, dalle cognizioni geografiche di... È una cosa complicata, ha detto, cioè, a nord delle Alpi, questo già è un risultato. Le Alpi da sempre, sono anni che fanno da confine le e Alpi. A sud c'era il Po, ma però tutti i paesi che traggono vita dal Po vuol dire che ci sono anche quelli a sud. Perché il confine quando lo mettiamo. Tracima, come il Nilo, porta linfa a tutti i paesi a destra e a sinistra dello stesso. Dunque, sti confini della Padania dove li mettiamo? Posto che esista complessi, la Padania. Sono complessi, però mi sembra che il problema del Giro della Padania sia l'ultimo. Allora, Miss Padania cosa facevano? Cioè, ogni volta che c'è la parola Padania dovrebbe uno inalberarsi. Il Giro della Padania, cioè, c'è la Tirreno Adriatica che la fa. Che, insomma, è vero che c'è il timbro di un partito politico in questo caso, però chi se ne frega. Ma allora c'è su tutte le manifestazioni che riguardano, quindi dovrebbe essere un problema. Cioè, il problema è in quello che dice la gente, non è in quello che del timbro. A me il timbro non ho mai visto nessuno che soffrire perché l'han timbrato. Soffrire quello che derivava dal timbro. Sì, comunque, insomma, fermatevi, questo è l'appello. Fermatevi con queste proteste, fate ricorrere in pace, non andate lì a mettere gli striscioni. Ma anche perché si sa, la polemica dà risalto, non c'è niente da fare. Quando uno non vuol parlare di qualcosa, non ne parla e basta. Infatti si parla molto di cose dell'altro mondo, il film che l'altro giorno è un bel vantaggio. Cioè, le polemiche, quanto vantaggio vi hanno dato su questo film? Permetto, perché c'è la confusione, è che se il film è a Batantuono, io non parlo mai in terza persona dopo che ho sentito che lo faceva anche Alberto Tomba. Dopo Alberto Tomba, ma la terza persona non mi piace. Però, siccome c'è scritto così, leggevo il giornale, dico, ma la polemica non è fra me e gli altri, io faccio l'attore in un film, adesso prima tolgo la mano, poi scaglierò il sasso, ma insomma io interpreto un copione, quindi il problema uno dovrebbe affrontarlo pensando che non è il poliziotto che ti dà la multa, ma è lo Stato che stabilisce una regola e il poliziotto ti dà la multa, lui fa il suo dovere, io faccio nel mio piccolo il mio dovere, sì. Quindi la polemica non è con me, io è sul modo in cui questo film rappresenterebbe il Veneto, una sì, regione fatta di imprenditori un po' razzisti che in realtà approfittano. Vabbè, già tu stai dicendo una regione fatta che rappresenta una regione fatta di imprenditori. I primi imprenditori sono l'1% della popolazione di una regione, quindi la polemica o è fra gli imprenditori e chi ha fatto il film, o è fra il Veneto e chi ha fatto il film. Il Veneto non è in polemica, perché noi abbiamo in realtà avuto, sono i politici, alcuni politici del Veneto, sono alcune persone, perché noi abbiamo avuto 50.000 contatti sul trailer. Allora tutto nasce da qualcuno che, vedendo il trailer, polemizza sul, dice il film è razzista, al contrario. Per uno che scriveva su questo, arrivavano 99 che, senza avere visto il film, dicevano solo a quell'uno: guarda che non hai ancora visto il film, perché parli così? E quindi vuol dire che ci sono 99 veriti su 100 che pensano che prima bisogna vedere un film e poi polemizzare sul film. Sentiamo il trailer, va, dato che ce l'abbiamo, sentiamolo, soprattutto sentiamo le voci che vengono dal trailer. Beh sì, vederlo è difficile. Cari ascoltatori, eccoci qua. Vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare. Conviviamo con i fondamentalisti islamici, con i fancazzisti albanesi, con i zingari. Prendete il cammello e tornate a casa. Apocalypse now! Dim? Mariola, mostri il casino. Vabbè, naturalmente questo qua è il trailer un po' accorciato, perché era un po' lungo. Se il trailer c'è il vantaggio delle immagini, la radio ancora però si sente la voce del personaggio che interpreta Diego Abbadantuono. Lo vuoi ricordare agli ascoltatori qual è il personaggio, per chi non lo sapesse? È un personaggio per me di fantasia, ripeto, i discorsi che faceva questo personaggio sono il motivo per cui il regista ha deciso di fare il film. Lui aveva intenzione, io riporto le sue parole, di fare un film su un'idea già di un film messicano dove sparivano i messicani, forza lavoro. Era un po' insufficiente, gli è venuto in mente che aveva visto su YouTube questi Gentilini e Prosperini, ma senza fare i nomi, ma molti, alcuni che facevano discorsi molto, io l'ho sentiti poi perché me li ha fatti sentire, molto più gretti, più duri. Prosperini, prima di essere arrestato, è stato spesso molto prima ospite più duri qui, di quelli che faccio io nel film, che sono però comunque riportati da quelli, quindi uno non può prendersela per quello che viene detto. Doveva prendersela prima, allora, con quelli che l'hanno detto per primi. Io tra l'altro rappresento un personaggio che poi ha una sua umanità, quindi c'è anche un finale dove si evince che si pente di questa campagna anti-immigrati, si capisce perché è così aggressivo, perché c'ha un vuoto familiare, perché ha dei problemi, perché insomma è una mancanza d'affetto che aveva poi scaricato nei confronti di una nigeriana che gli viene a mancare moltissimo quando poi spariscono tutti, insomma. Ma lo sa Diego Abbadantuono che c'è un deputato che ha fatto due interrogazioni parlamentari, una addirittura presentata o ieri o oggi? Io non credo sia così complesso fare un'interrogazione parlamentare, da quello che capisco, perché ce ne sono talmente tante e ognuno che sento, io ho visto uno che aveva un paio di scarpe slacciate, guarda che c'è uno che ha fatto un'interrogazione parlamentare sulle scarpe slacciate. E dice non contano nulla. No, conteranno molto, ma non mi riguardano me, perché io faccio l'interprete del film. Potrebbero essere un problema per chi ha scritto la sceneggiatura o per chi ha fatto la regia. Non dico, ma non è un problema per perché... Perché se basta vedere il film, il film non ha... Secondo questa interrogazione parlamentare addirittura vi dovrebbero togliere i soldi del finanziamento pubblico, perché è stato un flop, secondo questa interrogazione, il pubblico non ha gradito, si dà un'immagine sbagliata del Veneto, a parte che deve ancora essere... Io ho visto il film in sala a Venezia con un pubblico di Veneti, tra parentesi, c'erano 2000 persone, ci sono stati 10... applausi a scena aperta, 20 boati di risate, abbiamo fatto 10 minuti di applausi alla fine del film, ci sono stati solo complimenti, io non ho trovato nessuno superficialità con la quale l'argomento viene trattato. Il sarcasmo utilizzato a più riprese in diversi punti del film e la fredda reazione dell'opinione pubblica hanno evidenziato la mediocrità culturale e sociale del cortometraggio. Dunque questa interrogazione chiede ai produttori del film il completo rimborso del contributo elargito. Lo dice il signor Bitonci della Lega Nord. Buonasera. Sì, sono Bitonci. Parlamentare. Buongiorno. Massimo Bitonci. Sì, questo lo sappiamo. E anche sindaco. Buonasera. Sì, buonasera. Sindaco di Cittadella, se non sbaglio, no? Sì, a parte che non si fanno le interrogazioni parlamentari sui lacci di scarpe, perché si fanno degli esempi, si parla per fare esempi. Mi scusi, io la considero un grande attore, quindi l'ho sempre detto, lei è un bravissimo attore e ho visto la maggior parte dei suoi film. però banalizzare così l'attività di un parlamentare, dire che facciamo le interrogazioni sui lacci di scarpe, cioè, le interrogazioni sono, passano il vaglio di ammissibilità e alcune interrogazioni infatti non arrivano. Sì, però Bitonci, le posso dire la verità, le altre interrogazioni lei avrà fatto saranno sicuramente su argomenti fondamentali per la vita della Repubblica. Oggettivamente fare un'interrogazione parlamentare, anzi due, sul fatto che viene proiettato un film e lei chiede di togliere i finanziamenti pubblici a questo film, mi sembra un po' ridicolo. Il problema è il finanziamento pubblico. Ma insomma già l'hanno dato, non stiamo a discutere il finanziamento pubblico, gliel'hanno dato il finanziamento pubblico. Ha avuto un riconoscimento come un film culturale, questo non è un film culturale, questo è un film che fa ridere, un film probabilmente simpatico, anche secondo alcuni, ma certamente non un film che doveva avere un riconoscimento di questo tipo e soprattutto un contributo pubblico di questo tipo, però di 1.300.000 euro. Io dico a Battantuono, guardi, perché tanto ovviamente voi siete in tre, io sono da solo. No, che c'entra in tre? Ma io sono in due perché io non ho mai parlato ancora, quindi sono per adesso siamo 2-2. vada, perché mi è sempre più simpatico, mi ha fatto i complimenti. Quindi ha detto che fa ridere. Più simpatico. Allora, un film così, se fosse stato fatto, non so, al sud o contro la gente del nord e con espressioni di quel tipo, però ovviamente penso che potrebbe aver avuto dei problemi ben più grossi di quello che è successo. In effetti è una lecita protesta, soprattutto in un Veneto dove... Ma è un film, Bitonci, è un film. Ma fatemi una cosa pure a me. Scusi Bitonci, ma le frasi che lei dice, le citazioni, come citava anche Zai oggi, di usare la parola negri, gli sceneggiatori hanno ripreso dei discorsi fatti da voi. Non è che si sono inventati quel modo di parlare. Beh, io vorrei che lei trovasse una volta che io delle frasi razziste. Ma non era rivolto a lei, non c'è nessun nome, lì non c'è, si rappresenta una persona che c'è come fanno un film sulla mafia, c'è un mafioso, non tutti i siciliani sono mafiosi, un film sulla camorra, c'è un camorrista, i film su un medico che sbaglia un'operazione anche senza volere, cioè ci sono delle cose che non sono sempre delle colpevolizzazioni specifiche, si parla in generale di un'ipotesi, tutta una serie di stereotipi che le polemiche le hanno fatte, nessuno ha parlato mai, sono stati quelli che si sono lamentati preventivamente senza aver visto il film che hanno creato una polemica che ha fatto solo che un favore ai produttori del film, perché parlarne lei ha ragione, lei fa giustamente il suo lavoro e le polemiche non possono quale sarebbe la rappresentazione negativa? Lei l'ha visto il film? Bitonci, lei l'ha visto il film? Io ho premesso che io non ho visto ancora il film. Ma scusi, allora lei parla e non ha visto il film? È uscito da qualche giorno, però ho letto... Cioè lei ha fatto due interrogazioni parlamentari e non ha visto il film? Facevo fare la prima interrogazione parlamentare, se era durante le lasciamo la prima, la seconda... Non esageriamo anche... No, ho capito, però se uno fa... Non è necessario fare interrogazioni parlamentari, ho visto il film... Ho guardato la documentazione, ho letto la trama, ho visto i trailer, ho letto le recensioni, ho parlato con Zaia che ha visto il film, perché il governatore Zaia ha visto il film e mi pare che insomma che i commenti che sono usciti oggi sui giornali siano non trattiamo gli extracomunitari come poi passa il messaggio che passa nel film, anzi voglio ricordare come nel Veneto sia una regione estremamente accogliente, dopo anche i dati c'è il massimo dell'integrazione, lo sappiamo. Sì, no, è vero. Il massimo dell'integrazione, ma anche non capisco perché lei vuole. Lei può fare tutte le critiche che vuole, ma non capisco perché lei dice che il regista deve restituire i soldi al ministero. Questo non lo capisco, francamente. Mi spieghi il motivo. Là c'è stato un iter, lo possiamo criticare, non mi interessa adesso criticare l'iter. Ha ottenuto un finanziamento, punto e basta. Qual è il problema? Perché a lei non è piaciuto. Un parlamentare fa il suo lavoro e vuole capire come mai. Io sono stato invitato, ha avuto un riconoscimento di questo tipo, dopo alla fine. Abbiamo capito la sua tesi. Mi fa dire. È un film dove si ride, insomma, un po' come ho detto io, un po' un cinepanettone. Ecco, sì, un cinepanettone, bravissimo. Però lei ha fatto un'interrogazione parlamentare senza aver visto il film, se lei dice che è una cosa così importante l'interrogazione parlamentare, minimo ci vuole una documentazione diretta, quindi lei doveva richiedere al produttore, dice mi manda una copia del film, gliela faccio vedere. Faccio un altro esempio. Allora, no, lei non può farmi un esempio, deve rispondere alla mia domanda. Lei ha citato però, per esempio, argomentazioni sui giornali di cose che io avrei fatto senza leggere la delibera che avevo fatto, per esempio sulla questione del kebab, ecco. E allora, vede, io non ho citato niente, lei non l'ho mai citata, non la conoscevo prima. E facendo politica, io non l'ho mai citata, nessuno ha mai citato lei, nessuno ha mai citato lei, su questo ha ragione fino adesso la conosco, mi fa piacere, siamo diventati amici, ma prima non sapevo che ci fosse, come faceva a citarla? Su questo un po' Badantone ha ragione. Uno, lei dice che l'interrogazione parlamentare è una cosa importante, non bisogna banalizzarla. A questo punto, uno, prima di fare l'interrogazione parlamentare, prima di dire che il Veneto viene rappresentato come una sorta di paese razzista e in particolare la Lega come una banda di Zulu, uno si documenta e vede, almeno vede il film, chiede la Cruciani, io l'avevo detto anche oggi quando mi avete chiesto di intervenire alla sua trasmissione. Io avevo già premesso che non avevo visto il film, ma che mi ero ben documentato, ho visto i trailer, ho letto la trama, ho letto le recensioni e ho parlato con chi ha visto il film e tutti quanti ho letto i blog dove molte persone hanno commentato il film e molti veneti sono rimasti veramente offesi di quello, della figura che passa di un veneto razzista che non vuole gli immigrati, la che offende le persone. Capita, però. E questo è molto chiaro, ma io le ho detto che io le ho letti anch'io i blog, e su 190 erano contro quelli che dicevano sono contrario al film, e gli dicevano ma se non l'hai ancora visto come puoi dirlo? Io le dico una cosa, io ho passato tutta la mia adolescenza, gran parte della mia adolescenza, cioè il periodo più importante della mia vita, da 15 anni a 21, 22, nel Veneto, a Verona, con tutti gli amici di Verona, con fidanzati di Verona, vivendo completamente, e sono orgoglioso di questo perché è il periodo più bello della mia vita, con persone straordinarie, accoglienti, ospitali, generose, con i quali vado d'accordo. Quando mi hanno detto c'è da fare un film a Treviso, gli ho detto di sì, a momenti prima ancora di sapere che film era, perché si svolgeva a Treviso, a Bassano. I veneti sono persone straordinarie, hanno viaggiato per tutto il mondo, sono andati a cercare lavoro, hanno lavorato, sono tornati. È gente ospitale, noi ci rivolgiamo, penso loro, anzi chi ha scritto il film, si rivolgeva ad alcune persone, a delle frange, a qualcuno che aveva quell'atteggiamento, ma poi vedendo il film e vedendo questa fiaba raccontata, si capisce che è una storia che, di assoluta fantasia. Lei quando vede, se l'ha visto, il miracolo a Milano, volano via i barboni con la scopa, ma la tematica non è dove vanno a finire i barboni, cioè, dove sono venuti i barboni. Perché lei pensa che il rapporto umano che c'è fra le persone, lì si parla di una persona negativa che la interpreto io, perché io ho fatto il cattivo in tanti film, l'ho fatto anche in questo, che si ravvede alla fine. Non ci sono cattivi che rimangono per strada, ci sono delle donne anziane che rimangono senza i badanti, si racconta una storia dove non ci sono i cattivi e i buoni, cioè, e poi c'è solo una non persona che fa scattare questo meccanismo di fantasia. Poi non credo che ci sia il Veneto rappresentato, ma non è il vero. Ma che, per carità, se posso intervenire anch'io, prego, su questa cosa. Scusi, che... ma ero un po' che ce l'avevo, volevo dire qualcosa anch'io. Il problema fondamentale è proprio quello, cioè del fatto che si rappresenta una figura di un Veneto razzista, un Veneto fatto di ragazzi. Ricordo come il sindaco di Bassano abbia concordato poi anche con il regista del film di eliminare una scena dove c'erano dei ragazzi che sopra il ponte di Bassano sventolavano la bandiera della Serenissima, ubriachi, e quindi insomma c'erano anche delle scene che poi sono state... Io non lo so e non credo che l'abbia tolta per quello. Io so che il sindaco di Bassano si era opposto a far circolare un toro libero nella piazza, e giustamente di Bassano, di Treviso. A Bassano poi invece abbiamo fatto la scena, ma noi ci siamo trovati benissimo a Treviso e a Bassano, ma con tutti, non c'è stato nessuno che abbia creato un problema, perché il problema è la storia di, se lei racconta la storia di una persona particolare, la persona particolare può nascere in Umbria, nelle Marche, in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, però, o negli Stati Uniti. Secondo il copione è chiaro che non è un caso che avete ambientato in Veneto, no, perché... invece no, poteva essere ambientato in Piemonte, però poteva essere, no, per esempio, se poteva essere andato da qualche altro. Sì, infatti prima di noi, se lei fosse venuto al cinema, avesse avuto la fortuna di venire con noi e vedere i 10 minuti di applausi, le risate, hanno proiettato un corto proprio girato dai ragazzi a Rosarno, molto bello tra parentesi, credo che andrà anche in abbinamento nelle sale col film, E quindi voglio dire, il problema non tratta del Veneto, il rispetto per i veneti, il padre di la madre del regista è veneta, cioè non c'è un rapporto. Allora mi dica, Bidonci, cosa vuole ottenere? La valenza socioculturale. Ma un film non deve avere la valenza socioculturale. Io le chiedo solo, lei mi sa citare, lei mi citi 10 film che hanno avuto la sovvenzione. Se lei mi sa dire 10 titoli, quindi vuol dire che si è informato e conosce quelli che ai quali valeva la pena di dare i soldi, allora le dico che non valeva la pena di dare questi, però mi deve dire, ma non 10, 5, mi dica 5 titoli. Bidonci, non li conosce la risposta, e devo rispondere a Patantuono che mi chiede quali sono i 5 sì, film. Perché io, se lei dice politico, che questo non va bene, ce ne sarà qualcuno che va bene. Io ho evidenziato che questo era un film che andava a colpire quella che è una popolazione che si sente. Ma non colpisce la popolazione. Ricordo come i veneti, a differenza degli altri popoli, parlano una propria lingua, la parlano correntemente, la parlano sempre in famiglia, nel lavoro. C'è una lunghissima storia della nostra terra. Ma anche in Sicilia parlano in siciliano, anche a Milano parliamo in milanese. Cosa c'entra? Anche in Romagna parlano in romagnolo. Qual è l'insulto? Sì. Scusi, però per un attimo far capire agli ascoltatori, qual è l'insulto peggiore che ha visto nei confronti del Berito in questo film? Non l'ha visto. Per cui che io lo domando non a fare, posso saperlo. No, ma cioè, gli studi peggiori sicuramente quelli di dire continuamente negri a, ma negri è riportato migranti, un discorso fatto da una persona, cosa che noi assolutamente non diciamo. Ma non, e guarda poi, che lì non c'è un plurale, è uno solo che dice quella frase ed è riportata da discorsi ripresi da uno che l'ha detto davvero. È una citazione. Comunque resta il peccato iniziale, Bidonci. Lei per fare due interrogazioni, però un'occhiatina a sto film gliela poteva dare, un'occhiatina, una cosa da un passato. Così, dai, cioè andavamo insieme il primo Bidonci. Tempo in bagno e il secondo tempo sì, a letto, certo, ma voi dovete concludere per forza la vostra trasmissione in questo modo, cioè per responsabilizzare ovviamente è logico, no? Perché ma poi, no, non si arrabbi, è normale, no? non è che mi arrabbio, è così, cioè invece di andare al tema vero, ma non c'è quello, tema, il tema vero che si è voluto dare una rappresentazione razzista, ma non è vero, dice Veneto, lei, non è vero, è un lancio pubblicitario fatto ad hoc perché ma andava bene ad hoc? Così, ma la polemica l'ha fatta per carità, ci abbiamo messo anche del nostro, perché ovviamente beh, soprattutto con l'interrogazione parlamentari, col fatto che alcuni sindaci abbiano rifiutato il film nel loro comune. La polemica l'avete fatta solo voi, logico, ce l'abbiamo fatta anche noi, ma noi non possiamo stare zitti quando vengono dichiarate certe cose. Devo dare la linea, delle pubblicità che sono palesemente razziste. Ma quali sarebbero? Pubblicità? Ma non c'è. Eccoci qui la Zanzara, oggi con Davide Parezzo, sempre in collegamento da Roma, che fra poco faremo intervenire, Diego Abbatantuono che ci è venuto a trovare, abita qua dietro in realtà. Qui sì, abbastanza, poi ho vissuto, poi c'è il derby, l'ex ho vissuto derby qua davanti tutta la mia vita. Quindi sì. Qui di fronte alla sede di Viale Monterosa 91 c'è l'ex derby. C'è l'84 di Via Monterosa. Dove ha iniziato, diciamo. Dove ho iniziato io, dove lavorava mia madre, dove c'era mio zio, mio cugino, la nostra vita è in gran parte passata lì. Oggi c'è un centro sociale? Adesso c'è un centro sociale, però vedo che almeno lo tengono bene, insomma, lo vedevo pulito. Sì, sempre qui di fronte. Sono quelli che fanno spesso casino, tra virgolette, nelle manifestazioni. Vabbè, non li conosco, non li vedo e non posso dare un parere. No. Ho visto solo la sede, almeno ho visto che era in piedi. Almeno quello, dici. E Massimo Bidonci, collegamento da non so dove, credo da Roma. Bidonci, c'è ancora? No, da Venezia. Da Venezia. Dal parcheggio dell'aeroporto di Venezia. Dal parcheggio dell'aeroporto di Venezia. Bidonci, per cambiare, fa ancora così caldo a Venezia? Perché era terribile qualche giorno fa, c'era un'umidità. No, c'era un po' di aria, la temperatura è un po' ventilata. Meno male. Magari diventate amici. Parlando, secondo me diventate amici. Ma io sono sicuro. Parlando anch'io. Diventate amici. Ma parlando è solo così che si diventa amici. No, perché prima Badantuono diceva, ma insomma, le cose che dice possono mettere qualche grillo in testa a qualcuno, ma no, perché io ho solo paura che lei è una persona che ha un modo affabile di parlare, è carina, è sicuramente una persona che è stata eletta perché ha della PIL e magari uno ascoltandola potrebbe prendersela con me perché pensando che io sia il portavoce di qualcuno che ce l'ha con i veriti, invece io volevo sottolineare, no, come l'ho già detto, ma lei fa il suo lavoro, ma il mio lavoro lo posso fare in tanti modi, potrei farlo anche ci mancherebbe, però abbiamo un collegamento speciale, non su questo tema l'avevamo invitato in realtà, ma spesso riusciamo a rubargli 5 minuti del suo tempo preziosissimo. Il collegamento è con il Ministero dell'Economia e eccezionalmente la Zanzara questa sera per spiegarci proprio gli ultimi dettagli della manovra economica, il ministro Giulio Tremonti. Buonasera, ministro. Buonasera Cruciani. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. C'è anche Abbatantuono. L'ho sentito. Buonasera. Un motivo per cui ci tenevo a intervenire questa sera addirittura è che volevo intervenire nel rispondere all'ascoltatore che ha chiamato parlando con Abbatantuono. Ecco, io non capisco come si possa intervenire su un punto così delicato senza prima aver visto il film. Ma naturalmente non era un ascoltatore, era un deputato, cioè uno che è alleato anche con voi, un deputato che si chiama Massimo Bitonci. Dunque, lei conosciamo bene perché sono capogruppo nella commissione bilancio, quindi ci vediamo spesso. Volevo salutare il ministro Tremonti. Sì, ecco, mi chiedo scusa, avevo sentito male per telefono, saluto anch'io, ciao caro. E dopo questi saluti che di solito si fanno tra politici, ecco, lei dice che comunque ha ragione Abbatantuono. Adesso non è che vogliamo fare intervenire su questo, per carità, ci sono cose più importanti. Non vuole avere ragione o torto, però mi fa Le fa piacere Abbatantuono, no? Sapere. Beh, sì, è un punto di vista in comune, insomma, che va vista prima una cosa, ma sono convinto che anche Bitonci, se l'avesse visto, l'avrebbe pensato diversamente. Sì. Assolutamente. No, io credo che sia una questione, certamente in questi giorni abbiamo avuto altro da fare, come dire, ma in generale io ci tengo a chiarire che il punto centrale è che quando uno parla di una cosa è giusto che si informi prima, dopodiché non voglio alimentare la polemica. No, perché non deve esserci. Assolutamente. Senta, questa storia della... Come mai avete deciso alla fine di reintrodurre questa super tassa del 3% sopra i 300.000 euro? Anche qualche calciatore ho visto che si lamenta, dicendo addirittura Buffon, il portiere della nazionale, dice ci vogliono umiliare, mi sembra di avere letto da qualche parte. Come avete deciso questa cosa che era stata eliminata? Guardi, io per parlare giustamente della manovra, dell'attualità, ci tengo innanzitutto a introdurre, penso sia la prima volta, una metafora, sì, quella della crisi. Noi abbiamo vissuto varie fasi di questa crisi che è come un videogioco. C'è stata una prima fase, il multi subprime, il primo mostro, l'abbiamo sconfitto. La seconda fase, la crisi del credito, la crisi dei mercati, è stata interrotta per la prima volta. Sì. Adesso abbiamo questa terza fase complicatissima che non riusciamo a risolvere, perché capisco che ridiate, ma Super Mario Bros. È un gioco difficile, non riusciamo a superare l'ultimo livello. Quindi, insomma, se potete darci una mano, riusciamo a intavolare meglio le ultime per cui la metafora è quella con Super Mario Bros. Beh, interessante questa cosa. Questo Super Mario Bros è questa crisi del debito che ha origine dal modo scellerato, se posso dire, con cui è stata attuata la globalizzazione. Ma come mai tutti questi pasticci, scusami se non interrompo, tutti questi pasticci, una manovra che prima proposte, poi eliminate, ritornano alcune cose, avete deciso in maniera, insomma, ci sono state decisioni prese in maniera piuttosto convulsa, caotica, insomma. L'ho detto a Cernobbio, non tutte le ciambelle escono con il buco. Si possono fare degli errori, avevamo pochi giorni, avevamo i mercati internazionali, la speculazione figlia di una finanza scellerata che non ci ha permesso di ragionare. Siamo arrivati a una sintesi, il punto sull'IVA è un punto importante che mi rende molto felice. Ma come felice? Lei diceva si è sempre opposta all'aumento dell'IVA. Questo bisogna vedere sulle origini della globalizzazione, perché è nata in maniera scellerata dopo il trattato di Westfalia. Dovrebbe sapere queste cose qui. Cani. Sì, no, mi scusi. Non si può parlare del presente senza andare a rivangare un po' tutta la nostra storia. Possiamo ripartire. Iniziamo dal Settecento. Ministro, mi scusi. Mi sembra interessante, ma rimaniamo in superficie. Sì, rimaniamo in superficie, che è meglio. Bitonci, voleva chiedere qualcosa al ministro sulle ultime cose politiche, no? Beh, intanto lo saluto caramente. Grazie ancora, ti saluto. Il ministro, ecco, vorrei chiedergli se secondo lui questa manovra è ormai chiusa al Senato o se ci saranno possibilità quindi di modifica anche alla Camera. Ecco. C'è un voto in corso, c'è sempre tempo per delle modifiche. Continuiamo in questi giorni, mi sembra sia stato abbastanza evidente che le cose si possono sempre cambiare, quindi come c'è dire, ancora si può cambiare tutto. È quando un continuo, non ci sono problemi. Dunque, quanto al monito di Napolitano? Quanto al monito di Napolitano che chiedeva l'approvazione della manovra entro l'apertura dei mercati lunedì, cosa ne pensa il ministro? La scelta della fiducia è già una scelta importante che va nella direzione di andare veloci. È una cosa a cui teniamo. Come già abbiamo modo di raccontare, la crisi trae origine dalla globalizzazione scellerata. Se uno dà troppo spazio alla finanza e su un modo di vivere a Bitonci ha fatto una domanda precisa. Lunedì si chiude. Lunedì si chiude, lunedì ma si preferirei continuare a parlare della globalizzazione elevata, sì, che sì, è nata in un momento storico ben preciso. Sì. È uno dei piani su cui voglio veramente insistere, è sì, allontanare questo paese dal modello cinese, dalla minaccia cinese, dai prodotti sì, contraffatti. Ci sarà un Bitonci, questo voi sarete contenti di questa posizione? Su questo siamo d'accordissimo. Ecco, mi fa piacere. Ecco, siamo ministro, non le voglio almeno, togliere almeno più su questo, però non c'entro io. No, ma dottore, sì, non c'entra. E io ringrazio Tremonti che veramente ha i minuti contati e grazie per questo intervento. Grazie a voi. Bene, riprendiamo con la pubblicità, poi torniamo per chiudere. Bitonci, pubblicità, torniamo subito. Siamo qui, bene, ci ha lasciato il ministro Tremonti, sempre interessante, Bitonci, Tremonti, direi, no? Sempre bravo, soprattutto bravo, quando parla di globalizzazione, mondio, sì, della Cina, eccetera. Ma voi vi incontrate di solito con Tremonti, cioè avete, lei in particolare, l'ha mai visto di persona? No, sì. Spesso anche, io sono capogruppo in commissione bilancio, quindi quando ci sono manovre economiche, certo, anche altri provvedimenti, solitamente il ministro tratta di persona, quindi viene alle riunioni che si fa con maggioranza e opposizione, certo, poi per decidere anche sugli emendamenti o sui testi, insomma, quindi assolutamente. Però rapporto... sulla polemica con il film Cose dell'altro mondo con Abbadantuono eccetera, ha dato ragione da Abbadantuono un po', bisogna dire la verità, almeno no, questa volta dai, bisogna dirlo. No, potrei dirlo solamente perché è un bravissimo attore e, come ho detto prima, ho visto moltissimi dei suoi film. Per quanto riguarda il contenuto io non cambio idea, soprattutto perché sono sì, state volutamente inserite anche delle frasi, insomma, che ho letto. Sì. Ma guardi, su questa questione dell'interrogazione parlamentare, se vorrei essere chiaro, quante interrogazioni vengono fatte in base a riferimenti, atti di cronaca che magari il parlamentare non ha visto direttamente? Il fatto che ci siano già degli se dopo si vuol dire, va bene, sì, bisogna... approfondire, guardare un film, tutto, io lo guarderò, magari non spenderò i soldi del biglietto per perché andare, no, perché non vuole spendere i soldi del biglietto? Glielo offro io volentieri, però ci sono, lei, una giustificazione, che siccome ci sono molte interrogazioni parlamentari che forse non valeva la pena di fare, e no, questo non giustifica di farne una in più. Io le ripeto, lei può fare giustamente quello che crede, però, come diceva il ministro e come sostengo anch'io, se lei vedesse il film si accorgerebbe che non ci sono tutti questi insulti, queste parole, c'è solo una persona che interpreto io che dice delle cose piuttosto forti riprese da discorsi fatti veramente. Poi perché non c'è la figura di un imprenditore razzista, ma è un in un paesino nel nord-est, ho capito, ma non sono tutti, per predicare sull'opportunità, esatto, di avere, esatto, un mondo privo di extracomunisti, esatto, sembra una cosa da poco, cioè no, mi sembra un messaggio abbastanza, ma è un messaggio di dove uno si dice, si dice prendete il cammello e andate, ascolti, a casa, ma non, insomma, non è Gesù questo personaggio che va seguito, sì, e cioè non seguito, è il Veneto, vuole dire Abbadantuono, cioè, è una persona, è un individuo, sì, che commette un errore e alla fine però, si pente, cioè siccome sappiamo benissimo che non mi faccia figura... dire che avete la coda di paglia, perché se io mi riferisco a una sola persona non possono offendersi anche gli altri. Ma lo sa benissimo Abbadantuono che le critiche sono state mosse soprattutto perché c'è una TV locale ben specifica con una persona, dove l'imprenditore, insomma, faceva politica, parliamo Panto, di Panto, sì, ecco, sì, per dire ma il non nome, ma non è ispirato quindi, solo a Panto, insomma, è ispirato è a vari personaggi, è un mix una di personaggi, una figurazione che si è sposata in maniera molto precisa con questo imprenditore veneto. Abbiamo dato, voglio dire, anche autonomista, ecco, quindi voglio sapere il suo giudizio sul Veneto, sul dialetto veneto di Abbadantuono. Allora, no, ma non è un dialetto, no, dialetto, sulla pronuncia, veneta. Il milanese magari è un dialetto, come detto prima, giudichi ma un attimo, il veneto è una lingua, è una sì, cosa vabbè, diversa. Ascolti, posso dire una cosa? Io ho fatto sempre questo esempio, io ho avuto la fortuna di vivere nel Veneto quegli anni della mia vita con i gatti di Vicolo Miracoli, ho imparato il veronese. Se avessi conosciuto i Beatles avrei imparato l'inglese, che è una lingua come il veneto, giusto? Però io che sono milanese, ho parlato il milanese da piccolo con i miei genitori, mi sembrava una lingua anche quella. e quando sento dei piemontesi che parlano, e quando sento dei liguri, cioè i dialetti sono lingue, ognuno tira l'acqua al suo mulino dal punto di vista linguistico, ma c'è una storia un po' diversa però a Batantuono, perché insomma la storia del Veneto mi sembra che sia un po' diversa da quella del resto, sì, però... del resto dell'Italia. Noi parliamo della Serenissima Repubblica, sì, che ha governato per più di un migliaio di anni, ecco, nelle nostre terre. Insomma, lei sa benissimo che non c'è piazza, non c'è luogo in Veneto dove non ci sia un leone, dove ci siano i vessili della, certo, Serenissima. Un attimo solo, Bidonci, un attimo che solo. Noi abbiamo ancora dentro, perché come ripeto, noi parliamo, cioè a differenza del dialetto che si parla e non si parla, sì, come sì, è noto, in Veneto si parla a qualsiasi livello, anche in consiglio comunale. Un attimo solo, Bidonci, un attimo solo. Siamo d'accordo, sono contento io. Bene, bene, siamo di nuovo in diretta dopo questa notizia che avete sentito dalla Breaking News, cioè il governo che incassa la fiducia sul maxi emendamento sulla manovra. Abbiamo avuto in collegamento prima il ministro Tremonti, che ci ha detto che lunedì si chiude tutto. E ci ha detto anche che è meglio vedere i film, però questo rimane per, insomma, no, so, ma questo non è, puoi è dire meno importante, ma insomma, va, diciamo, bene, grazie Bidonci. Grazie, vado a vedere, vado a vedere il film. Spero di incontrarla, così parliamo a voce una volta. Magari proverò col mio Veneto. Che... Senta, anche per lei, dato che ci siamo, anche per lei i magistrati è meglio che siano padani, come ha detto oggi un altro suo collega, secondo me dicendo una cosa allucinante. È meglio che siano padani, che, perché in questo modo la lotta alla mafia si fa meglio? Ma guardi, l'Italia, ma che vuol dire poi i magistrati padani? È il paese in Europa dove c'è il più alto numero di magistrati, e la giustizia non funziona lo stesso, quindi probabilmente no, i problemi sono ben diversi. Ha parlato di un'altra cosa però il suo collega, che si chiama Torazzi, allora, ha detto che ci vogliono magistrati padani, perché in questo modo la lotta alla mafia si fa meglio. Ma quello no, sicuramente lo dica, che è una stronzata, non si può anche dire, uno dice una stronzata anche se è un suo collega, ha detto una stronzata, non è strano, si chiama Torazzi questo suo collega. Ci sono delle situazioni in cui magari un magistrato conosce meglio il territorio e certe situazioni del proprio territorio, però che tutti i magistrati debbano essere di una parte o di un'altra, penso che insomma che sia sbagliato, ecco. È sbagliato cosa dunque? Che è una proposta comunque sbagliata, ma sai, nelle cose che si dicono si può estrapolare una frase che i magistrati del sud favoriscono la mafia, ha detto, i magistrati non è che estrapolare, in questo caso è stato detto a Radio Padane, se vuole le faccio sentire tutta la cosa che abbiamo fatto sentire prima, cioè ha detto sì, guarda che faccio anch'io parecchie interviste su Radio Padania, lo so, e qualcosa magari, cioè, magari a qualcuno può scappare qualche frase. A Radio Padania si parla di libertà, lei dice uno possono scappare delle cose, cioè, può succedere. Quando si sta a Radio Padania si vuole anche solleticare il popolo padano, i militanti. Invece sa che sul Giro di Padania invece comincio a pensare che l'errore l'abbiano commesso quelli che hanno sobillato questa sorta di protesta. Vabbè, ma comunque andiamo troppo. Ma dunque abbiamo dato ragione in qualche modo alle posizioni vostre in questo caso. Non ci sono pregiudizi qui. Grazie Bidonci. Grazie, un saluto. A presto Bidonci. Traffico. Siamo qui, vorrei sentire qualche ascoltatore, 20 18 800 24 00 24, fino alle 20:30 trattengo, sequestro Diego Abbatantuono. Sì, sono sequestrato volentieri. Domenico da Rimini, buonasera. Buonasera. Dica. Ma niente, io telefonando da Rimini, come classico, come si può immaginare, siamo tutti presi l'estate da queste attività turistiche, no? Allora l'altra sera con piacere, con molto piacere vi ho riascoltato, sì, nel tragitto verso casa. E gli argomenti forti sono sempre quelli, no? L'escort. No, oggi no, veramente. Senza entrare nel merito. Abbiamo parlato poco di escort, no, oggi. Non voglio essere qualunquista, no? Sì. E poi magari o cambi emittente oppure si innesca un notiziario, un aggiornamento, sì, di notizie. La crisi urgentissima di bilancio, l'aumento del punto di vista. Vabbè, insomma le cose di attualità, qual è il problema? Allora, dico, viviamo fra escort e crisi di bilancio. Dico, ma a ste ragazzine, ma fagli pagare 2-3 marchette ogni tanto in tasse. Ah, le dice la legalizzazione. Non si pensa proprio nessuno. Ma guarda, qui siamo grandi sostenitori della legalizzazione della prostituzione, però cosa vuole dire? È talmente semplice e logico che non si farà mai. Quando facevamo dei grandi sacrifici per entrare in Europa, ci ricordiamo, sì, tutti nel dettaglio le varie tasse e tassine. Sì. In Olanda, lo ricordo con precisione perché mi stupì, alzarono quella volta di un punto, come sta accadendo adesso da noi, praticamente l'imposta sul valore aggiunto delle prostitute, sì, e risolsero il problema in un attimo. Vabbè, loro sono di meno, tutto quello che vogliamo. Guardi, in un paese molto cattolico come la Germania, o comunque un paese religioso in cui c'è una grande tradizione religiosa come la Germania, c'è non solo il matrimonio tra omosessuali senza nessun problema, che ne dica Giovanardi che abbiamo sentito prima, paese cattolico la Germania, poi anche una grande tradizione protestante, eccetera, eccetera. Ma c'è anche la legalizzazione della prostituzione, cioè non mi pare che siano crollati i valori in Germania oppure sia un paese alla deriva, è un paese normale in cui ci sono queste due cose. Quando abbiamo il conto della spesa da fare, i valori, io li metterei un attimo da parte, ci sono dei conti da dividere, ragazzi. Iniziamo a guardare con ordine chi sta godendo di un'esenzione fiscale. Si parlava di Vasco Rossi, no? Da mille sfaccettature il problema. Però la droga come la prostituzione come minimo non fa pagare le tasse. Ah, lei poi affronta un altro tema. Chi la consuma come vizio personale, se uno ha l'abitudine della barca, ecco che subito arriva la raccomandata di richiesta chiarimenti. Chi ha il vizio della droga invece non fa elemento da redditometro. Chi la vende... Cioè, è difficile girare con una barca in tasca di nascosto. Senza partire con crociate impossibili che poi farebbero delle stragi, probabilmente. Ragazzi, mettiamo un po' la mano nel portafoglio, sono stati tanti anni di esenzione fiscale, probabilmente è arrivato il momento, qualcosina, di tirare fuori tutti. Paghiamo tutti, paghiamo di meno. Già, guardi, sì, ma questo è un vecchio tema comunque, quello tema di questi giorni sull'evasione fiscale, per carità, va benissimo. Grazie Domenico. Donato da Vicenza, buonasera signor Donato, poi Ivano dalla provincia di Venezia, e altri, Antonio da Prato. Donato, dica, che vuole dire sul Veneto? Quindi... Io sono veneto. Sì, allora? Devo è incazzato come lei con Abbatantuono, no? No. Devo stimo Abbatantuono e sono incazzato con Bitonci. Sì, mi dica perché. Io non sono leghista. Adesso Bitonci penserà che l'abbiamo naturalmente. Perché anche qua dove abito io, il termine negro è una prassi normalissima tra noi veneti. E c'è anche qualcuno che con le badanti, tutte puttane. Attenzione, e non è vero che il Veneto è così buono, così non è razzista, non è... Ragazzi, stiamo attenti perché qua in Veneto ce ne sono parecchi che ce l'hanno con gli extracomunitari, ci portano via il lavoro. Le badanti sono... Io non so quanti siano, Donato, so solo che c'è un film guardi, che rappresenta... Che dirò, c'è un... Io vivo in un paese della Concia, ad Arzignano, e le dirò, ce ne sono parecchi. Ma parecchi. Io non credo mai ai microsondaggi, comunque. No, ma io lo dico perché io faccio. Ma non è nemmeno importante, ma non è questione di quantificare quelli che pensano queste cose. Qui c'è un film che è una storia, il racconto di una storia. Esatto. Questo è il punto. Ah, Parenzo, ci sei ancora? Scusami, mi ero dimenticato. No, ci sono, ho fatto intanto altre due cose. Io volevo dire solo una cosa a Bitonci, da Veneto, ma soprattutto anche da persona che va sempre al cinema. Sì. È un dibattito che è una coglionata, detto col massimo rispetto. I politici si devono occupare di politica. No, mi sembrava a un certo punto di parlare col signor Mereghetti. Mereghetti si occupa di cinema, quindi fa la critica cinematografica. Il signor Kesic fa la critica cinematografica. Ma il signor Bitonci, bravo. L'esempio di Mereghetti era bello, però, su Bitonci. Mi sì, io volevo dirglielo. Ma siamo al collegamento con Mereghetti o con il sindaco di Cittadella? Almeno Mereghetti forse i film li vede. Speriamo per lui. Io mi affido a quello. Quando leggo in un certo modo, vado. Se leggo in un altro, non vado. Ma il contrario, però. Quindi... Anche può essere, però il politico si deve occupare di politica. Cosa c'entra il politico col film? E fa addirittura l'interrogazione parlamentare. Ma come si permettono? Ma si occupassero delle cose serie di questo paese e il pubblico deciderà. Poi pensa che siamo tutti scemi. La gente va al cinema e dice: ah no, perché il Veneto è stato screditato. Ma cosa è stato screditato il Veneto? È screditato un parlamentare che perde del tempo a fare un'interrogazione su una roba che non ha visto. Quando c'è il crollo delle borse, c'è Tarantini. Ma c'è solo un'interrogazione su Tarantini? Perché non fa interrogazioni su Tarantini? Anziché fare interrogazioni su un film che non ha visto, il signore non è né Porro del Corriere della Sera, né Mereghetti, né tantomeno Tullio Kesic, si occupasse delle cose. Il federalismo fiscale, si occupi di federalismo. Via Bitonci, via. Federalismo, cosa gliene frega di quella roba lì, del film che non ha visto? Poi Bitonci, io ti voglio bene, Padova è a pochi chilometri da Cittadella. Da Cittadella, sì, certo. Si occupi delle robe della sua città. Fra poco anche collegamento con sempre col solito Bossi, dalla Reggia. Il critico cinematografico dalla Reggia. Hai detto Bitonci contro Abbatantuono. Sembra un titolo di un film di Topolino. Bitonci sfida da Abatantuono, ma che discorso è un po' come Totò contro Maciste. Esatto, Totò contro i Bitonci contro Abatantuono, una cosa, no, pazzesca proprio. No, anche perché poi io ho fatto, poteva essere Bitonci contro il titolo del film, adesso sono diventato anche rappresentante di questa cosa, mi fa molto piacere. Ma lo sai che una volta Franceschini ha accostato Abatantuono a Bossi dicendo che Bossi è tipo Attila Flagello di Dio, il famoso Attila Franceschini, ex segretario del Partito Democratico. Quindi un complimento. Non lo so se gli ha fatto, un complimento. No. O lui o me, a qualcuno l'ha fatto. Non, credo che non credo fosse un complimento. Io la voglio prendere così, non come Bitonci. Io qualunque cosa per me il capo barbaro che fa la guerra. Ma scusami, volevo chiedere a Diego invece se il mago di Segrate è ispirato al Divino Telma. Questo volevo capire. No, io. Viene molto prima del Divino Telma. È il Divino Telma che è ispirato al mago di Segrate. Ah, ecco, questo è io faccio solo matrici, non vado mai. Senti, invece, nella politica di oggi chi ti ispira di più? Per esempio, le performance radiofoniche, televisive e anche parlamentari di Scilipoti ti appassionano? Io sono appassionato del cambio radicale, che è del cambio di passo dal punto di vista dell'abbigliamento di chi? Di Bossi. Ah, di io Bossi. Soffrendo molto il caldo e quindi non invidiamo mai i politici obbligati. Invece, il politico in canottiera, secondo me, è veramente uno svecchiamento, un passo avanti. Però questo della canottiera è una cosa vecchia di Bossi. La riesumata, devo dire. No, basta che faccia caldo, la riesuma. Insomma, la canottiera si mette quando fa caldo, è ovvio, non puoi metterla quando fa freddo. E Berlusconi come lo vedi? Al tramonto, finito? No, però non credo. Mille che sia, vite, sì. No, lui no. È sempre intraprendente. Io Berlusconi lo vedo come presidente del Milan, quindi faccio molta fatica a dare un'opinione che non sia quella del presidente del Milan. Una persona che mi ha dato tante soddisfazioni. In questi come anni come presidente del Milan, ma io lo vedo come presidente come del politico Milan. Soddisfazione no, come non politico, lo obliteri come no, politico no, non è che lo oblitero, si adombra dietro a quello al presidente del Milan, capito? Nella tua testa è nella mia, la testa è la mia, no, la mia, certo, perché certo. Vivo però in è anche paese, presidente del Consiglio, ti voglio ma segnalare è anche padrone di Mediaset e sì, anche e tante altre cose e tante produzioni cinematografiche, cioè io lavoro lavoro con tutti quelli con cui lavora lui e quindi non riesco a vederlo fermo, è in continuo movimento, vedo quello che si muove e quello che si muove di più è quello del calcio. Del calcio, Hai capito? No, sì, ho capito. No, nel senso che è talmente allora, dimmi una cosa positiva. È talmente vivo. Una cosa positiva o una negativa di Berlusconi? Anche se dici una cosa negativa non succede nulla, no? No, beh, negativo. Una cosa negativa, così, negativo, una cosa che non ti fa negativo, piacere. Questa cosa delle donne. No, non è che vado a monte. Se lui avesse fatto il presidente del Milan a tempo pieno e il presidente di Mediaset, io avrei avuto più occasione di stare con lui, lavorare con lui. Sarebbe stato meglio. E sarebbe stato meglio. Anche per il me. Paese? Non lo so, per il paese, per me sicuramente. La domanda la fai a me, io non rappresento il paese. No, sennò avrebbe ragione Bitonci, che rappresenti. Rappresento me stesso. Ho capito, sarebbe stato meglio. E qual è, se volevi sapere, la cosa positiva? La cosa positiva, sì. Questa è la stessa. Cioè che lui è un ottimo presidente di calcio. Lo invidio molto per la sua vitalità. La cosa positiva più di tutto è la sua vitalità. E quello non si può non invidiare. Che vota Abatantuono? Io non lo so ancora, quest'anno non c'è, quest'anno quello prossimo. Hai sempre cambiato, hai sempre votato? Berlusconi l'hai mai votato? No, non l'ho mai votato, E a sinistra sì? A sinistra ho votato molto spesso. Sei tendenzialmente di sinistra? Nasco in un periodo in cui avevo questa ideologia e l'ho mantenuta e poi adesso... Cioè hai quasi sempre votato a sinistra, più o meno? Sì, ho sempre votato a sinistra. Hai sempre votato a sinistra? Sì. Bene. Però questo non cambia niente nel mio rapporto con gli altri. No, figurati, assolutamente. No, già che facevo l'imprenditore, poi adesso ho anche questa nuova... Non vorrei di andare via con un fardello troppo grosso. No, figurati. Bene, io ringrazierei Diego Abatantuono. Io ringrazierei soprattutto Tremonti, che è stato veramente carino. È spettacolare, Tremonti. È una persona... Ecco, questo voglio dirti. Sì. Non conosco nessuno che nutra antipatia, non so perché, almeno per quelli per che conosco. Per Tremonti perché l'uomo non è però simpatico, no, così al di là, io parlo al di là di no, invece l'uomo, il suo modo di parlare, forse questo modo di parlare, le imitazioni, eccetera, tante imitazioni che si porta nel gobbone, forse gli imitatori sono bravi e lo rendono anche simpatico, questo che ne è so. Vero, sì, questo è vero. Però alla Guzzanti, fine viene fuori... chi è il migliore secondo te? Guzzanti è molto bravo. Secondo me Guzzanti è il migliore a prescindere. E invece ti faccio sentire questa imitazione di Abatantuono che ci ha regalato tempo fa l'ex sindaco di Milano Albertini, che è specializzato nelle imitazioni. Purtroppo l'ho incontrato anche in un corridoio. In che senso? E che fa l'imitazione male secondo te? No, me l'ha fatta tutta lì davanti, faceva caldo, è stato un problema. Cioè, era lunga. Era lunga. Sì. Cioè, voleva impressionarti con no, questo. Aveva un repertorio e voleva portare a casa tutto. Insomma, ha fatto una, era lungo il pezzo. Ecco. Vabbè, dai un voto, così tanto sei sincero. Dai un voto. Sentiamo prima. Tu dici che non sono milanese. Io sono milanese 100%. E se tu non sei d'accordo con me, queste mani piccole tozze, come do badilette, diventano cefone sulla faccia, gonfio così. Allora? Il problema è il testo, hai capito? Lui fa, dice un consiglio una cosa di documentarsi. Questo qua è una cosa che diceva Porcaro. Ho le mani piccole tozze come due badiletti, faceva questa cosa. Io non l'ho mai detto, questo è il testo che gli manca. È forte sulla... Soprattutto perché non è uno che lo fa di professione, naturalmente. Beh, ah no? No, limitato. Ah no, pensavo facesse... che è un po' che non lo vedevo in giro, pensavo fosse... Avesse cambiato allora mestiere. Allora va bene così, se è dilettante va bene così. Un'ultimissima cosa, ma c'era una parte interessante in un'intervista che hai fatto recentemente all'Espresso, in cui dici basta con questa rievocazione continua del cult, del passato, no? Del tuo passato cosa è che butteresti? Ci sono tanti film che non sono venuti bene, forse non film interi, perché quel periodo che si cita come cult, che può essere trash, puoi dire tutte le frasi, va bene tutto. Ormai va bene tutto. Poi io mi sottolineavo un fatto, il problema di Tarantino, ma non tanto il problema non è di Tarantino, di quelli che ascoltano quello che dice Tarantino tramite un traduttore, lui cita spesso la sua infanzia. Ma l'infanzia è come un periodo dove tu d'oro, ma dove tu non sei del tutto equilibrato nel giudizio, perché non è che se vedi i puffi vuol dire che da grande poi i puffi sono una figata. Quindi i film che vedeva lui da bambino gli piacevano perché era bambino, ma non perché era un film di qualità. E invece la gente si appropria di questo per far diventare tutto cult. Io ho fatto dei film dove ci sono delle buone scene, delle cose divertenti, poi ci sono anche dei pezzi che io quando li vedo mi pento di aver fatto, perlomeno tipo, avrei fatto... Tipo uno? Ma non so, ma nello stesso eccezionale, nello stesso... ci sono dei punti che sono riusciti. Li rivedi malvolentieri oppure no? No, quelli non li rivedo. Io rivedo non malvolentieri, ma con troppa malinconia alcuni periodi della mia vita che riguardano... Per esempio Mediterraneo, Marrakesh, quando avevo i miei figli molto piccoli, insomma, e mi viene un po' di magone, perché invece quelli fanno parte di un passato talmente lontano che non mi fa neanche, non mi dà neanche quell'emozione lì, quindi li vedo abbastanza lucidamente e vedo che ci sono delle cose che funzionano. Attila funziona quasi tutto rivedendolo, allora sembrava meno interessante di prima. Eccezionale, per esempio, funziona anche il secondo. Sì. Tu hai un film che si chiama Sballato, Gasato, Completamente Fuso. Secondo te il film si chiamava così? Il film si chiamava Storia d'amore, era un film con la Fene che Enrico Maria Salerno. Siccome non riuscivano a chiudere il film, mi hanno appiccicato a me nel film e io facevo un tassista e quindi diventa il titolo Sballato, Gasato, ma io faccio 8 pose, dico 4 cose, delle 8 cose che dico... 4 sono divertenti, insomma va preso così. Dobbiamo chiudere, grazie a Diego Badantuono, cose dell'altro mondo, polemiche a non finire come avete sentito anche stasera, bye Bitonci, borsa e torniamo subito. Siamo qui, Parenzo, ti ho trascurato stasera, poi preso da Bitonci e da Badantuono. Eccoci. Preso da Bitonci e da Badantuono ti ho un po' trascurato, mi sono un po'... No, ma non ti preoccupare, è stata una bellissima battaglia. Mi sono un po' risentito a un certo punto, perché ero a un certo punto preso da questa battaglia all'ultimo sangue tra Bitonci e a Badantuono. Una bella battaglia, è stata molto buona. E ti ho tenuto in disparte. Ma io ho seguito, poi ho fatto altre cose. Mi perdoni, maestro, perdonami. Direttorissimo, ma lei può fare no, veramente perdonami perché tu non sei qui accanto a me, hai capito? Questa cosa è tremenda, vabbè, terrificante. Adesso però sembra che sta all'associazione, amico. Quale associazione, scusa? Quella citata anche da... Stiamo a fare tu, lo so, però tesoro, non sei qui accanto a me, io non sono a Roma, è una mancanza terribile questa cosa. Non ti preoccupare, intanto è arrivato Calearo che ti voleva salutare e gli ho detto no, sta litigando con il signor Bitonci, con una Batantuono, allora è andato in studio. Poi adesso è passato il signor Mentana che ti voleva salutare. Ah, perché stasera Calearo è lì da voi? È qui con Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, col signor Mario Giordano. Insomma, stasera il signor Calearo c'è un affollamento pazzesco. Doveva essere nostro ospite, ma gli abbiamo dato una buca ieri. Perché era detto, dovevo venire ieri da voi? Era troppo tardi, poi diglielo dopo più tardi, mettiti d'accordo per venerdì dopo direttamente. D'accordo. Il signor Calearo, che è il consigliere per il commercio estero del signor Berlusconi. Ecco. Interessante, ecco. Anche così, infatti. Va bene, fra poco, subito ascoltatori, via. Antonio da Prato, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Voi avete omesso che il film l'ha visto il Trota e ha fatto la recensione per Bitonci. Questo non l'avete detto. Non ho capito, scusi. Il film l'ha visto Renzo Bossi, ha fatto la recensione e ha scritto la recensione per Bitonci. Ho capito, ma non l'ha visto questo Bitonci. Non l'avete detto. Non l'ha visto Bitonci il film. No, l'ha visto il Trota. Ah, il Trota. L'ha visto il Trota, ma non credo che l'abbia visto nemmeno il signor Renzo. Va bene, non ride mai però, Cruciani. Vabbè, non l'avevo capita, scusi, abbia pazienza. Antonio, non è che sono obbligato a capire tutte no, le battute che si fanno. No, io su un altro argomento, però poi sì. Sono stato veramente preso dal match. Bitonci a Batantuono. E ora infatti vado a mangiarmi un bel kebab. Sì. E poi vado a vedermi il film, visto che io vivo in una città dove ci sono 102 etnie diverse, sì. Che è Prato, e dove sta, qui in Etruria, sta arrivando sempre più forte il messaggio della Lega, anche qui da noi, insomma. E quindi spero poi di farmi un giudizio completo. Non voglio fare come Bitonci, insomma, ecco, nel senso, comunque... Quello che volevo dire non lo dico più, ecco. Lo dica, però non si ormai ha telefonato. Ormai ha telefonato, lo dica, Antonio. No, avevo chiamato soltanto perché l'attacco della. Io sono un vostro affezionato ascoltatore, ma l'attacco è sempre sulle di Berlusconi, che ormai non ce ne frega più niente a nessuno, nel senso, cioè. Avere offeso così l'intelligenza degli italiani dicendo che Rubi. Rubi lo chiamava Papi e Berlusconi era come la Caritas, che cioè, scusi un attimo e la moglie lo chiamavano zio e poi andavano a chiedere soldi per andare a Cortina, cioè, e dire che lui dava soldi a Tarantini perché era una famiglia in difficoltà, cioè ormai aver offeso così l'intelligenza degli italiani significa aver toccato il fondo, la misura è colma, cioè secondo me, a mio modestissimo avviso, dovreste un po' mettere anche... Ma noi non omettiamo niente, abbia pazienza. Il ministro Rotondi che è invidioso delle performance di Berlusconi, io credo che ormai noi... ho capito, cioè, ma se lo dice che dobbiamo fare. Abbiamo piene le tasche, cioè, non, mi scusi, non... Scusi, ma se l'attualità è sbagliato, giusto o sbagliato che sia, ci offre queste roba qui, ma che dobbiamo fare? Non dobbiamo parlare della vicenda di Tarantini? Abbia pazienza, signor Antonio. No, certo. E allora ne parliamo, punto e basta. Poi le priorità ha saranno. Ha comprato i giornali oggi, ha visto i telegiornali, no? Ma sì, i telegiornali l'avrà visto. E allora basta, su, ma non c'è da discutere su alcune cose. È così. Ma mi sembra che lo curate troppo. Scusate, io è il mio modestissimo punto di vista da semplice vostro ascoltatore. Va bene, grazie Antonio, grazie. Ivano dalla provincia di Venezia, buonasera signor Ivano. Buonasera. Dica. Io ce l'ho con Parenzo perché mi ha rubato l'intervento. Ah. Cioè quello su chi? Di Bitonci ancora. Di Bitonci, e volevo dire che cosa sta a fare a parlare di cinema se non ha visto il film. Ma questa è una cosa su cui non ci può essere discussione, infatti. Bitonci ha cercato di dire, non è che si fanno le interrogazioni. No, ha fatto la figura. Lei è presente come rappresentano i veneti nei film, no? Mm. È sempre la serva stupida che è veneta. Mm. Il siciliano è sempre quello furbo, il malandrino, e Bitonci ha fatto la serva stasera, stupida. Perché se stava zitto, anzi se non si faceva trovare quando l'avete chiamato era meglio. E uno dovrebbe fare l'interrogazione parlamentare almeno avendo visto il film, non derelato. E poi con ragione di causa, perché ho visto il film e per cui per questo motivo faccio un'interrogazione perché non mi va che venga... A parte che nel Veneto c'è una sacca di quelle persone là. Sì, ma al di là del giudizio... Esiste dappertutto, non solo al di là del giudizio, ripeto, insomma, resta il fatto che signor Bitonci ha fatto due interrogazioni senza aver visto il film. Poi lui l'ha giustificato. Senza una ragione precisa. Va bene, grazie. Giuseppe da Vicenza, buonasera. Pronto? Sì, dica. Buonasera, innanzitutto lo ringrazio per avermi richiamato e volevo anche ringraziare Diego Batantuono per lo stimolo che ha acceso sulla tematica. Volevo dire che se da un lato è vero che il Veneto è una regione che dà molto ospitale, che dà lavoro a molte realtà diverse nel mondo, è anche vero che comunque il Veneto come regione ed il Veneto come cittadino ha una strana concezione, interpretazione, fobia per il diverso. Nel senso, mi spiego, prima il diverso erano i meridionali, leggi terroni, no? Ora sono gli extracomunitari, leggi i negri di quel Bitonci che, chiudendosi gli occhi, è padrone di una città, stato come la sua cittadella, fa sì che comunque il diverso non possa risiedere se non ha un lavoro. Comunque, al di là vabbè, di questo, allora? Vabbè, ma anche questo può generalizzare. No, anche questa è una generalizzazione. Sì, bisognerebbe comunque vivere sul territorio, però nel secondo che se di giorno si ha paura di quel diverso. Sì, però Giuseppe, lei sta andando troppo in là. Mi dica qualcosa su questa polemica tra Bitonci o comunque tra una parte della Lega. Anche il presidente della regione Veneto, Zaia, oggi in un'intervista al Corriere della Sera ha detto che noi non odiamo i migranti. Eccetera. Allora, ha detto che ci ritrae come Zulu, ma non lo siamo. Io le posso dire solamente questo. Io le posso dire solamente questo, signor Cucciari. È pieno di stereotipi, cioè, mi dica una cosa su questo. Io le dico questo, che la realtà nella quale io vivo, per quanto da un lato ci sia la necessità di far integrare queste persone che vengono da altre parti del mondo, di solito davanti a una tazzina di caffè o davanti un bicchiere di grappa la parola negro esce senza alcun problema. Quindi questo è quello che io vedo, quello è questo che io sento e questo è quello che ho vissuto sin da piccolo, da quando dal sud. Va bene, questa è la sua esperienza. Abbiamo il traffico, torniamo subito, grazie. No, le esperienze singole rispetto alla polemica che è quella scatenata da un sindaco e da una parte della Lega contro un film dicendo che non deve prendere più i finanziamenti pubblici perché dà un'idea del Veneto sbagliata è un'altra cosa. Poi ognuno di noi ha la sua esperienza. Alcuni dicono sì, conosco un sacco di veneti che usano la parola negro, io invece no. Non contano queste cose rispetto al nodo, alla questione che è venuta fuori. Siamo qui alle 20:47, alle 20:47. Caro Parenzo, non so se ti sei accorto di una cosa durante l'intervento di Bitonci, ma ne parleremo dopo, Certo, ne parliamo questo dopo. Dice 20:50 l'orologio della 7, comunque. Sì, comunque ne parliamo dopo, della cosa di Bitonci. Lo sai, no? Qual è l'argomento di discussione? Certo che lo so. Però non si può dire, non lo si può dire, non lo si può dire. Il signor Bitonci deve stare un po' più attento anziché, no? Luca da Bologna, buonanotte a te, sei in volo, Luca da Bologna. Ma quanti ospiti avete stasera in onda? No, è un'assemblea. Ma è una cosa pazzesca, spuntano, sono sei ospiti per mezz'ora, siete pazzi. Luca da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io volevo intervenire su Giovanardi. Vabbè, Giovanardi, come si chiama comunque? Giovanardi, adesso può pensare tutto il male possibile di Giovanardi, ma si chiama Giovanardi, abbia pazienza. Sì, infatti ne penso, penso proprio male di Giovanardi. Su questo non avevamo dubbi. È meglio che non esprimo, cioè non mi esprimo. No, si esprima, com'è meglio che non si esprima? Si esprima, ci ha chiamato apposta, non è che ci ha chiamato, per dirci è meglio che non mi esprimo. Questa pure è buona. È una cosa pazzesca. È meglio che non mi esprimo su quello che penso di Giovanardi. Io volevo intervenire veramente sul paragone che ha fatto tra Berlusconi, Kennedy sì. e Clinton, voglio dire. Magari sulla quantità forse con Kennedy forse aveva anche ragione. Ma io dubito che abbia ragione nella quantità con Kennedy, abbia pazienza. Io ho sentito che Kennedy a volte, c'erano giorni in cui faceva sesso anche con 3-4 donne diverse. Nella sala comunque, entravano e uscivano. Questa è la teoria di Giovanardi. Kennedy ne ha avute di più di Berlusconi, però insomma non so cosa. Su quello si può discutere, diciamo, no? Giovanardi che parla però di Kennedy. Però volevo aggiungere, non mi pare che Clinton o Kennedy abbiano mai telefonato a un distretto di polizia negli Stati Uniti oppure all'FBI per agevolare la liberazione di una ragazza. Lei dice. Sì, è anche vero che le persone con cui sono stati a parte che c'è anche la vicenda di Marilyn Monroe, eccetera, tutte le dietrologie possibili immaginabili, per quello che riguarda Kennedy. Ma niente di confermato. Sono situazioni diverse, anche i paragoni sono assurdi. Su. Luca, la ringrazio. Alessandro da Roma. Alessandro da Roma. Luca, dica. No, anche perché negli Stati Uniti sicuramente sapete come funzionano le cose, il giorno dopo si sarebbe dovuto dimettere. Vabbè, adesso anche questo paragone di nuovo, l'abbiamo sentito 200 milioni di questi paragoni. Però in Italia ancora Berlusconi è come se non avesse fatto niente. Va bene, grazie. Alessandro da Roma, buonasera Alessandro. Salve, buonasera. Sì. siete fantastici. Vi sento quasi tutte le sere, anche se ultimamente c'è stata una variazione molto più spettacolo che non notizie politiche. Comunque credo che questa notizie sera... politiche si dicono sempre, si fa spettacolo sulle notizie politiche. È molto più bello questo taglio, perché veramente si mettono in luce anche quelle che sono le nostre, diciamo così, capacità di discriminare chi è che parla imitando qualcuno e chi no. Cioè io spero che abbia che il rappresentante della Lega, che addirittura sta nel consiglio, nella commissione bilancio, credo che si sia reso conto che forse Tremonti non è intervenuto in diretta, ma praticamente c'è qualcuno che lo imita. Perché, scusi, Alessandro? No, non credo. Io guardi, ho sentito parecchie volte quando c'è chi fa Tremonti che parla con voi, perché mi sento da parecchio tempo. E Tremonti non era Tremonti, allora uno dei due. No, ma perché dice così? Scusi, guardi, lei mette in dubbio, mette in dubbio la nostra parola. Noi abbiamo chiamato Tremonti ed è così, non è che. No, guardi, scusi, allora o è finto chi è che parlava al posto di Tremonti, o è finto il rappresentante della Lega, perché non si può dire che uno sta in commissione bilancio, sente Tremonti parlare tre giorni e crede che quello che sta parlando con lui al telefono è Tremonti. Dai, non è possibile. Io farei un'interrogazione parlamentare. Non lasci limite, non metta limiti, non metta limiti alla. Facciamo un'interrogazione parlamentare, non sul film non visto, ma sul limitatore non riconosciuto, sarebbe troppo forte. Grazie Alessandro. Prego, Daniele, prego, da Roma. Effettivamente, però un'interrogazione parlamentare subito oggi ci starebbe. Luciani, grazie. Dica Daniele. Parenzo. Pronto? Daniele, la sentiamo bene, parli. Sì. Grazie che la sera quando ritorno a casa dopo una giornata di lavoro stressante mi fate fare quattro risate. Meno male. Il mio intervento era su Giovanardi, su quello che è accaduto, il solito bacchettone, insomma. In realtà io condivido la sua politica contro le droghe, però in realtà effettivamente una canna non crea problemi alla guida. Ma non è quello, io sono anche un fan delle canzoni di Vasco Rossi, insomma sono cresciuto. E allora? E allora quello che posso dire è condivido la politica di Giovanardi contro le droghe, ma al tempo stesso posso dire che non sono le canzoni che decidono il destino della vita delle persone. E quindi le due cose possono coesistere, cioè si possono sentire le canzoni di Vasco Rossi, ma al tempo stesso rifiutare ogni tipo di droga. Ma certo, non c'è un dubbio. Un po' di buon senso, finalmente. Assolutamente, Daniele, conosco un sacco di gente che adora le canzoni di Vasco Rossi e non ha niente a che fare con la droga. Ma poi non è che una persona viene giudicata in base a quante canne uno si è fatto, no? Che ma succede poi, in onda là con Telese, con Telese che ride finalmente? Che l'opposizione, quello è quello che conta. Dubbio. Allora, Boeri, una valutazione innanzitutto ovviamente su questi. Questa è Lucia Costamagna che vabbè, lasciamo perdere. Dove andiamo? È la penultima puntata. Appunto, questo volevo dire. Non è un tema, non è che le hai detto, le hai insultata. Anzi, una di queste giorni potremmo anche collegarla, signora Luisella, se vuoi. Vabbè, perché no? In esclusiva la Dandara parla Luisella Costamagna. Quando non è più. Vuoi che vado adesso in pubblicità dentro? No, per carità, no, dillo dopo. Roberto dalla provincia di Vicenza, buonasera. Dalla provincia di Venezia, buonasera. Sì. Nessun problema. Di Venezia, il Veneto è una lingua. Sì. Ha 1200 anni di storia, lingua franca e trattati internazionali a decine. Vabbè, allora. Veneto. Ma a questo punto non mi interessa. Questo è giusto per dire. Vabbè, che lo diciamo, diciamolo. Benissimo. No, questo. L'Italia ha 150 anni, è una lingua l'italiano con 150 anni di storia. Mi permetta che il Veneto con 1200 possa essere. Va bene tutta roba. Seconda cosa. Io penso che cioè una persona esaltata al giorno deve chiamare sempre la Zandara, questo è sì, poi gliela dico alla fine, l'ultima. Se lei non fa parlare Parenzo, forse la sua trasmissione ne guadagna, ma però questo è un suo giudizio. Sì, nessun problema. Che legga i libri di storia comunque Parenzo, perché quello che dico è storia. Ma Parenzo che legga i libri di storia, vero? Non ho capito? I libri di storia che ha da essere scritti in Veneto, tesoro, so anche a me il Veneto, ma non mi cosa? Non ti si Veneto neanche a morire uno che dice certe robe non le Veneto, punto, non ha importanza, il mio intervento era per un'altra cosa. Ma guarda te se... Un attimo. Un'altra cosa, Papalia... Papalia, sì, ancora questa storia di ancora questa storia di Papalia. No, indaga su qualsiasi cosa di razzismo che esista. Su qualsiasi cosa, soprattutto se lo fanno i veneti, ma perché non indaga su, secondo me, su questo razzismo strisciante nei confronti dei veneti? Perché questo è un razzismo continuo nei confronti dei veneti. E chi è che è razzista nei confronti dei veneti, scusa? La cosa pazzesca. Chi è che è razzista nei confronti dei veneti? Abatantuono? Parenzo, no, assolutamente. Certo tipo di politica, ma non politica fatta. La politica si fa con il film, si fa con le riviste, si fa con i giornali. Questo è il razzismo strisciante nei confronti dei medici. Però non c'è nessun magistrato che indaga su questo, anche perché mi sembra che ci sia ancora l'obbligo assolutamente dell'azione penale in questo stramaledetto paese. Su indaga su che cosa? Su che dovrebbe indagare, scusa? Sul razzismo nei confronti dei veneti. Perché ma lei dove si trova? Qual è il reato? Il reato di razzismo esiste per la... Vabbè, Roberto, per carità, che ci possano essere degli stereotipi ogni tanto dei... No, va bene. Però lei mi sembra che abbia... Lei mi sembra che abbia oltrepassato... Sì. Mandano un'ambulanza subito in finale qui, perché come si fa? Ambulanza, no, è troppo tardi. Non ci sono più le ambulanze. Grazie. Bitonci ci comunica, questo lo dobbiamo dire naturalmente, che aveva perfettamente capito che Tremonti non era Tremonti. Ah, ottimo, è stato lo scherzo allora. Beh. È stato allo... si è prestato al ottimo gioco. Bitonci. Si poteva anche evitare di no, perché uno può fare quello che vuole, poteva anche dirlo che non era lui, non ci offendavamo, è successo più volte in diretta, ci aveva dato l'impressione evidente che invece un po' ci aveva creduto, ma ci comunica questo, magari ha recitato anche lui, e noi ci crediamo, e noi ci crediamo assolutamente, e lo ringraziamo, lo salutiamo e lo abbracciamo pure, che dici? Ciao Vito, io lo abbraccio, Bitonci, figurati, lo conosco da tanti anni, abbracciamolo forte, si occupassi di amministrazione non di cinema, va bene. A domani 18:30 con una sorpresa, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.